come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Tornato Brunetta, eccolo! Caro Parenzo, è tornato all'assalto. Stiamo ballando come dei pazzi. Ma chi è? Ma chi è? Renato Brunetta, Renato Brunetta. Andiamo, Brunetta. Il mitico, mitologico Renato Brunetta. Numero uno, eh. Ieri against un gruppo di precari indefiniti. Dopo il tuo commento. Beh. Prima quello che è successo ieri. Io credo che la giornata di rinnovazione sia questa. Riconoscere al nostro paese questa grande capacità di parlare al resto del mondo. Scusate. Si presenta. Buongiorno. Sono della rete dei precari al servizio. Grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Questa è la peggiore Italia, grazie. In sintesi è accaduto questo: un piccolo gruppo di precari, credo della pubblica amministrazione, voleva fare una domanda al ministro, il quale ha detto se ne va e poi dice siete l'Italia peggiore. Poi viene insultato da questo piccolo gruppo di persone che è lì. Buffone! Buffone! Pazzo! La vera innovazione sono i precari della pubblica amministrazione. Invece di ascoltarli è andato via. Scusi. Perché è andato via? Scusi. Perché non vuole ascoltare i precari che lavorano per la pubblica amministrazione? Guardi qui. Lei deve dare una risposta. Massimo, col massimo rispetto. Abbiamo provato, io ho provato a parlare con lui. Poi a un certo punto uno di questi precari, di questi signori che erano presenti lì, non si capisce a quale titolo, ma questa è una mia considerazione, vi anticipo alcune delle mie considerazioni, e cerca addirittura di mettersi di fronte alla macchina del ministro che va via. Lei deve dare una risposta, ministro. Che fa, mi investe? Era solo per ascoltare chi lavora. I precari d'Italia Lavoro, delle agenzie del Ministero del Lavoro. Che fa, mi investe? Che fa, mi investe, ministro? Io mi faccio investire, vediamo un po'. Poi c'è stata anche la replica di Brunetta alle critiche, e addirittura il Partito Democratico vuole far diventare Brunetta testimonial al contrario. Beh, adesso. Del suo convegno sul lavoro, Bersani che dice estremista e preoccupante, la CGIL è un'offesa per tutti i lavoratori, eccetera, eccetera. Poi esagerato questo. Brunetta con una ricostruzione che però, devo dire, fa acqua. Una ricostruzione che fa acqua. Hai analizzato la sequenza. Ho analizzato la sequenza. Cruciani ha analizzato la sequenza. La ricostruzione, devo dire, fa acqua. Sentiamola. Spieghiamo i fatti. Avevo appena finito il mio discorso alla giornata dell'innovazione al testaccio. Quando una signora chiede di parlare, di pormi una domanda, le spiego, sì, veloce però, perché devo andare dal Presidente della Repubblica. Quando capisco che la signora, arrivata sul palco, vuole parlare di precari, pubblica amministrazione, dico scusi, l'argomento è troppo complicato e lungo, non ho il tempo per trattarlo. Mentre scendo dal palco vengo insultato, buffone, vai a lavorare, compare uno striscione, cominciano gli spintoni, e a questo punto dico, beh, voi siete l'Italia peggiore. Beh, non è andata proprio così, la sequenza è stata molto più veloce, prima è venuto il siete l'Italia peggiore di Brunetta, e dopo alcuni insulti. Poi Brunetta ha parlato di assalti squadristici, ma diciamo il clou è stato in realtà la sera prima di questa spiegazione di Brunetta, quando ad una domanda di Lilli Gruber sul lavoro a 8:30 ha detto i precari, i ragazzi italiani precari a scaricare le cassette ai mercati generali. Basta con la retorica. Ogni tanto una mamma mi dice, sai mio figlio bravissimo, cerca un lavoro. Dico, guardi signora, domani mattina alle 5 ai mercati generali a scaricare cassette. No, mio figlio a scaricare cassette. Dico, sì signora, se vuole lavorare, quello è il modo migliore. Scaricare le cassette. Per tutti gli italiani. E magari raccogliere mele. e magari a raccogliere mele nelle sue terre, poi aggiunge nelle terre in Trentino, della Gruber, in Trentino, mele. Grandissimo, devo dire su questo, grandissimo. Sul resto si può discutere naturalmente, soprattutto, su questo ha ragione, soprattutto sulla siete sul l'Italia peggiore. Il tuo commento, caro, beh, il tuo moderato commento sulla di oggi, sulla cosa delle mele forse ha ragione il signor ministro, ma sul resto, beh, cari amici della Zanzara, quando un ministro della Repubblica di un governo già traballante e in grave crisi di credibilità rifiuta il confronto con una povera precaria sottopagata, beh, cari amici, ci sono solo tre parole da dire. Tre parole! Brunetta a casa! Brunetta a casa! Questo è il moderato commento di Brunetta, che invece sempre io, col massimo rispetto, che invece io voglio difendere, caro Parenzo, in questo modo. Sulle mele lo difendo anch'io. No, lascia perdere le mele, sì. Sulla questione dello sfogo di, cioè, il dell'altro diritto pomeriggio del precario di incazzarsi e fare domande al potente. Assolutamente a chi comanda, no. Primo a perché, chi ha le redini del primo comando, perché il precario mano non è una categoria così stabilita. Che cosa significa precario? Un signore precario della con un contratto a tempo determinato non è un precario, è uno che lavora. Ma chi è l'interlocutore di questo che ha il contratto? Non si è tenuti a rispondere durante un convegno alle domande. Un comitato non si sa bene chi rappresenta, i precari italiani, i precari della pubblica amministrazione, cose indefinite. Ma che problema ha un uomo e poi che siete l'Italia peggiore? Non è un insulto. Per me siete l'Italia peggiore perché vi comportate in questo modo, perché ma fate delle già imboscate. È precario, ma quello che imboscate? Quello è andato a un convegno, ha chiesto di parlare. Se tu sei un ministro autorevole come sei, non rifiuti il confronto, ti metti là e discuti poi con un tuo dipendente. Quello è un suo dipendente. C'è un altro numero uno del giorno che è invece Giorgio Stracquadanio. Ma che quello è oggi? Numero uno assoluto. Lei ha messo insieme oggi tutto il meglio. Mi pare. Senti, perché su internet noi non vinciamo? Ma scusate ragazzi, hanno un esercito che alle 2 del pomeriggio va a casa e non fa un cazzo. Noi, perché il loro blocco sociale è l'impiego pubblico e noi non pensiamo che siano egemoni. Questo è un esercito di 4 milioni di persone che già all'impiego pubblico, non voglio dire niente, sennò il mio amico Brunetta si incazza. Già là, secondo me, loro smanettano di politica e non di pratiche pubbliche, non fanno il loro lavoro. Ma supponiamo che lo facciano tutto, qua tornano a casa alle 2, dalle 2 alle 10 di sera. Hai voglia il casino che monto in piedi se sto anch'io tutto il giorno dietro la tastiera? E facciamo risentire l'attacco militare, perché mi piace troppo, sono innamorato di questa cosa qui. L'attacco militare cosa, all'onorevole Stracquadanio, detto Giorgio. Che vuol dire Stracquadanio? Un signore che da una tribuna come quella si permette di insultare un pezzo importante del nostro paese. Gli dico, beh, caro Stracquadanio, ricordati che tra un po' vai a casa dopo la sberla che hai preso prima i ballottaggi e poi alle elezioni referendarie. A casa, signor Stracquadanio, è finita, finita, finita! Eravamo veramente con l'assalto militare della Boccassini, che rimandiamo in onda. Commento, moderato. Abbiamo un accerchiamento militare che si dirige tutto in questura di Milano. Era palese dai contenuti delle intercettazioni telefoniche che si prostituivano, questa è l'ipotesi accusatoria ovviamente, che ricevevano denaro. Questa è la Boccassini, qualcuno potrebbe dire in realtà l'assalto militare non è quello della Minetti e di Maristel Polanco, chi era quell'altra, no? Ma l'immagine, la brasiliana, l'abbiamo detto, non mi ricordo come si chiama, no, Maristel Polanco, la chiama? La signora Michel Consensano. Michel Consensano, hai ragione. Bensì della procura contro Berlusconi, va bene. Salvatore da Catania, buonasera. Chi è Salvatore? Buonasera. Ascoltatore. Senta, io le volevo dire che non mi è sembrato giusto quello che ha fatto Brunetta, anche perché ho sentito il suo intervento nella trasmissione precedente di Radio 24 e non ha dato. Sì, durante Focus Economia, in cui Brunetta ha detto: ridirei tutto, la rete viene usata come un manganello. Allora, Salvatore? Sì. Che vuole dire? Infatti, però non mi è sembrato molto convincente, vero? Che ne so, Salvatore, non l'ho sentito, adesso lo sentirò. Diciamo che la ricostruzione di Brunetta di quello che è accaduto è sbagliata, perché non è avvenuto quello che lui dice. Dopodiché è l'Italia peggiore, c'è una retorica sul precariato che effettivamente dà fastidio, e a Brunetta ha dato sempre fastidio, perché quando ha sentito la parola sono della rete dei precari è sbottato, subito. Dai, arrivederci, via. Romano da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Era per la... Ma pure lei non è corretto nell'informazione, perché io il film l'ho visto e non, non è successo niente, niente di quello che avete preparato all'inizio. Quelli l'hanno insultata Brunetta dopo che lui li ha insultati. Ma guardi che io, a parte che bisogna, bisogna intendersi, siete l'Italia peggiore, se è un insulto o no. Comunque guardi che io ho detto che la ricostruzione di Brunetta è sbagliata. Cioè Brunetta, appena ha sentito quella che parlava, la parola sono della rete dei precari, se n'è andato, a rivederci, eccetera. Dopodiché, un secondo dopo, ha detto siete l'Italia peggiore. Sì, ho capito, stiamo dicendo la stessa cosa. È stato raccontato. Stiamo dicendo esattamente la stessa cosa, che la ricostruzione di Brunetta è sbagliata. Dopodiché, dopo questa risposta di Brunetta, sono arrivati gli insulti, buffone, eccetera, eccetera. Dopo le parole di Brunetta, secondo me sarebbero arrivati lo stesso gli insulti, ma comunque... Probabile. Guarda, sei il peggior giornalista più scazzacani che ci sta, lei che farebbe? Romano, stiamo dicendo la stessa cosa, non hai capito ancora? Pronto? Cosa, vabbè, ma ragazzi, ma le sentiamo le telefonate oggi o no? Traffico. Basta con la retorica. Ogni tanto una mamma mi dice: sai, mio figlio è bravissimo, cerca un lavoro. Dico: guardi signora, domani mattina alle 5 ai mercati generali a scaricare cassette. No, mio figlio a scaricare cassette. Dico: sì signora, se vuole lavorare, quello è il modo migliore. Scaricare per tutti gli italiani. E magari che ci raccogliere mele. Basta con la retorica del precariato, dice Brunetta. C'è un altro pezzo audio su questo. Basta con la retorica del precariato, eh? Lo mandiamo? Basta con la retorica del precariato. Il lavoro è un bene comune. Bisognerebbe anche smetterla con i luoghi comuni. Basta retorica. Basta retorica, ci vuole la concretezza dei fatti. Basta anche con la retorica del precariato, quando ci sono 4 milioni di stranieri che vengono a fare i lavori che gli italiani non vogliono fare. Eccoci qua, 800 24 0024. Ma... iniziamo con gli ascoltatori. Marco da Roma. Salve, finalmente, sono io, sono in linea. Sì Marco, fino a prova contraria sì. Sì. Ah sì, no, perché sono in attesa da un po'. No, non le faccio perdere tempo. Soltanto una cosa, ho chiamato ieri perché volevo dare una risposta e dico due cose veloci. Sono pienamente d'accordo con Brunetta, anche perché io faccio l'imprenditore, ho chiuso un paio di negozi perché sono andati male o per altre storie, e mi alzo alle 5 di mattina, non sono mai sceso in piazza con i tamburi, con le canne e con le stronzate a dire. Quindi do pienamente ragione. Con che cosa, scusi, con le canne? Sì, sulle cose che fanno, le varie manifestazioni, le varie cose. Comunque, per farla breve, do ragione a Brunetta e volevo dire un paio di cose a Parenzo, soltanto due cose. Sì. A casa, a Parenzo, a no, casa. A casa, buonasera. Amico mio. A Parenzo, casa. A casa. Ma io sono... casa. Lei è un lavoratore... va bene, Marco, ho capito. Parenzo, a casa. Non è con questo tono, caro Marco. Lei non si sopporta più. Caro Marco, stiamo arrivando. Stiamo arrivando a prenderla, amico mio. E la salveremo, la grazieremo, caro Marco. La grazieremo, la grazieremo. Norberto da Lecco, buonasera. La grazieremo. Buonasera. Dica. Io invece sono di un parere completamente diverso. Penso che sia inaccettabile che dei miei dipendenti, ovvero i politici, sì, basta questa storia dei dipendenti, però questa storia dei dipendenti è ridicola. I politici non sono dipendenti, no, non di nessuno. Non è affatto ridicolo, mi scusi. È ridicola questa cosa dei dipendenti. Glielo diamo noi con le tasse che paghiamo. È ridicola questa cosa. È un'invenzione ridicola. È una cosa ridicola di Grillo. Dipendenti, cosa significa dipendente? Anche no, dipendenti pubblici sono dipendenti. Non abbia pazienza, però di base non ce n'è. Va bene. Ai politici glielo diamo noi pagando le tasse. Bene. Lei lo, dà anche ai dipendenti pubblici lo stipendio. Chi paga lo stipendio? Lei lo dà anche ai dipendenti una pubblici. Cosa eticamente inaccettabile. Lei lo dà anche ai dipendenti pubblici lo stipendio, non solo ai politici. Sì, però per l'amor di Dio, non sono io quello che sta difendendo i dipendenti pubblici che non vogliono lavorare. Allora, dica quello che deve dire, su. Io però penso che è anche altrettanto inaccettabile quello che diceva la Maiolo l'altra sera, che diceva che l'unica cosa per far andare bene il bene comune è che passi in mano ai privati. Non è affatto vero. Io faccio l'amministratore di casa dove vivo e amministrando i soldi degli altri 40 inquilini li amministro molto meglio dei miei, ma perché ho un fondamento etico che mi consente di pensare. Ma scusi, cosa c'entra questo? Ma l'amministrazione del condominio cosa c'entra? In maniera corretta. I nostri sì, certo, dipende sempre come si spendono i soldi. Diciamo, la tradizione, la storia insegna che, diciamo la verità, dove c'è il pubblico spesso c'è anche un po' di spreco in più rispetto al privato. Questa è vero. Questa è la mia analisi. Ecco che la Moralino sta facendo il lavoro. Beh, ho capito, ma che civile da buon padre di famiglia. D'accordo, sentiamo anche poco, la ringrazio. Giorgio da Brescia, buonasera. Buonasera, mi sente? Dica, sì, la sento. Ascolti, era per dire a tutti e due che sono d'accordissimo anch'io con Brunetta e con Straguadagno. Finalmente qualcuno che comincia a dire delle cose sagge. Anzi, io penso che addirittura... Ma dicono due cose diverse, due cose diverse. Cioè, Brunetta sì, dice... Sono buone tutte e due. Sì, le è piaciuta la parolaccia lei di Straguadagno. Ha capito tutte solo quella, sì. Evidentemente. E a Parenzo, cioè... vorrei ripetere quello che ha detto l'ascoltatore di prima. Parenzo, a casa! No, più forte devi dirlo, scusa. A più casa, vieni a prendere anche me! No, più forte di a casa! Vieni a insegnarmi qualcosa, che non ho mai imparato niente nella vita, visto che lavoro 12 o 13 ore al giorno. No, ehi, guardi, ehi. Giorgio, allora, un abbraccio Giorgio, fortissimo, Giorgio. Scusi un attimo. Io l'abbraccio davvero con affetto. Straguadagno ha detto che... No, io non ti abbraccio, Parenzo. No, con affetto dialettico ti abbraccio. Sì, neanche con perché quello, guarda. Io adoro chi la pensa diversamente da me. Ti abbraccio, Giorgio, davvero. Scusi un attimo. Grazie di esistere, Straguadagno dice che quelli che stanno sul web... sono tutti di sinistra innanzitutto, cioè, la sinistra vince anche perché sta sul web, perché ci sono i dipendenti pubblici che non fanno nulla fino alle 14, smanettano sul web e dopo le 14 stanno a casa essendo fancazzisti e dunque aumentano il consenso e stanno lì a giocare col web. Lei condivide questa cosa? No, che tutti i dipendenti statali siano fatti così, no, non lo condivido. Però questo dice Brunetta. Però inviterei a fare come me, a farsi un giro in uno dei ministeri di Roma e vedere come fanno. Ho capito, ma Straguadagno ha detto un'altra cosa. Straguadagno ha detto un'altra cosa. Brunetta invece ne ha dette diverse. Una è siete l'Italia peggiore a quelli che fanno la retorica sul precariato. E secondo me qui ha ragione. La retorica del precariato è una cosa vergognosa. Prima cosa. Ma può essere, ma un precario ha diritto a protestare o no? Ma che deve fare un precario? Non ho capito. Ma basta con questa retorica. Basta con questa retorica. Ma uno ha diritto a protestare o no? Ma sì. Uno ha anche diritto di dire è l'Italia peggiore. Ma e chi lo... Certo, ma io ho diritto di bloccare la macchina pacificamente di un ministro. Andate a lavorare, meglio, al posto di continuare a protestare. Ma andate a lavorare, amico mio, tutti, ma andate a lavorare. E lei perché non lavora invece di telefonare? 800-24-0024, c'ha che chiamo il Cruciani, così ha detto. Va a lavorare! Fino a mezz'ora fa. Pranzo, se proprio ti porto un panino, ti porto. Ti permetti? Che così vedrai come si fa a lavorare, magari insegniamo anche a te. Ti permetti di insultare un ascoltatore che ha lavorato 12 ore al giorno e che poi chiama la zanzara? Vergognati. Grazie Giorgio, l'abbraccio. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Maurizio da Roma, buonasera. Simpatico questo. Buonasera. Dica. Devo semplicemente dire, intanto condivido con Straguadagno l'analisi giusta, cioè in effetti su Facebook parlo analisi. Anche di quello che è successo questi giorni su analisi. Su diciamo sui referendum, no? Cioè sembrava che chi avesse idee diverse o che magari diceva di astenersi fosse un lebroso, ma adesso al di là di questo senza fare polemiche, anche perché poi la gente si è espressa e quando la gente si esprime. Bravo. No, ma guardi che Straguadagno ha detto, se vogliamo far riascoltare Straguadagno, per secondo, me, fate, secondo me molti non hanno capito. Fatemi riascoltare Straguadagno, che dopo sarà Straguadagno. Ma scusate ragazzi, hanno un esercito che alle 2 del pomeriggio va a casa e non fa un cazzo. Questo è Straguadagno, eh. Sì, cioè, sì, no, perché sì. Vincono sul web? Infatti, perché hanno un esercito che alle 2 del pomeriggio va a casa e non fa un cazzo. Guardi, io sono un elettore centrodestra, però intanto credo che non bisogna mai generalizzare né da una parte né da un'altra, quindi ci sono diciamo impiegati nella pubblica amministrazione che lavorano, impiegati che non lavorano, probabilmente sono più quelli che non lavorano e quelli che lavorano, anche perché poi non c'è nessuno che li controlla. Ma al di là di questo io voglio dire che se noi in questo paese continuiamo, certamente Brunetta ha sbagliato forse nell'espressione, io sono d'accordo con lei quando dice che basta con la retorica del precariato, questa in effetti è gente che lavora, così come i contratti diciamo un po' più flessibili ci sono stati hanno permesso a tanti giovani di lavorare. Altrimenti erano disoccupati, quindi voglio dire, mi sembra che ci sia molta retorica. Diciamo che forse per dire una cosa del genere non c'era bisogno di dire siete l'Italia peggiore, ma questa è Brunetta, è fatto anche certo. di queste espressioni qui, di queste reazioni. Ma uno ha diritto a protestare, altrimenti no? Non sarebbe l'UFO robot che conosciamo, non sarebbe questo. Giornale radio, torniamo alle 19:15. Non Siamo qui 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, caro Parenzo, caro Cruciani, con le tue analisi moderate questa sera su Brunetta. Ce la vuoi riproporre? Analisi moderata, moderata sulla sortita di Brunetta. Sintetica, cari amici della Zanzara. Quando un ministro della Repubblica, esponente di un governo già traballante e in grave crisi di credibilità, rifiuta il confronto con una povera precaria sottobagata. Beh, cari amici, ci sono solo tre parole da dire in questo caso. Tre parole! Brunetta a casa! Brunetta a casa! Ti faccio presente che sì, è stata chiaramente un'imboscata. Sì. Come un'imboscata? Qualcuno mi ha detto che a un certo punto, nella bagarre, è stato detto: a chi diamo il video? A chi diamo il video cosa significa? Cari amici, questo cambia tutto, cari amici. Beh, questo potrebbe cambiare. Cambia cioè, tutto. È tutta una cosa organizzata. Questo non toglie che uno può avere un giudizio negativo sulle parole di Brunetta, ma è evidente che è stata un'imboscata organizzata dalla rete, dalla cosiddetta rete, cioè da alcuni che poi volevano mettere sulla rete questo video di Brunetta. Vabbè. Poi questa retorica sui precari, sulla è ridicola. I precari sono, a parte che non sono precari, ma sono lavoratori. Tu sei precario, precario. Non hai cioè chiunque non ha un contratto a tempo indeterminato è un precario. Io sono precario. Nell'accezione negativa che si dà alla parola precario. No, ma infatti, ma il problema, il tema non è questo. Il tema è Maristella Polanco che annuncia il TG3, intanto. Ascoltate, cosa deve dire? Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. La Lega all'attacco in vista della verifica. Maroni, basta soldi per i raid in Libia, la legislatura durerà, non ho la palla di vetro. Il PDL sulla Libia, non ci divideremo, Berlusconi ottimista, il governo tiene in agenda giustizia e riforma fiscale. Casini sul fisco, solo chiacchiere, il PD e la Lega è l'ultima occasione per sfilarsi, Prodi il risultato del referendum ha spiazzato tutti. Inchiesta sulla loggia P4, arrestato a Napoli l'imprenditore Bisignani per rivelazione di segreti, chiesto l'arresto per il deputato PDL Papa. Brunetta contro i precari, siete l'Italia peggiore, scatta la rivolta sul web, ma il ministro insiste, usate la rete come un manganello. Sciopero generale in Grecia, scontri ad Atene, assediato il Parlamento, Papandreou pronto al governo di unità nazionale, l'UE a rischio e la stabilità finanziaria. Svolta nelle indagini sull'omicidio della piccola Yara, individuato il DNA dell'assassino, non c'è stata violenza sessuale. Basta con la retorica. Ogni tanto una mamma mi dice: sa, mio figlio è bravissimo, cerca un lavoro. Dico: guardi signora, domani mattina alle 5 ai mercati generali a scaricare cassette. No, mio figlio a scaricare cassette. Dico: sì signora, se vuole lavorare, quello è il modo migliore. Scaricare cassette. Per tanti. Per tutti. Per tutti gli italiani. E magari che ci raccogliere hanno mele. E magari raccogliere mele. Le mele, signora Gruber, cara signora Rosi Bindi. Brunetta deve ancora smaltire la tripla sberla elettorale. Lui non ha il software per fare il ministro. Chi è questo? Rosi Bindi, presidente del Partito Democratico. Sì. Signora Santanchè, buonasera. Liberi Parenzo dall'esorcismo che lo attanaglia da un paio di giorni. È una cosa pazzesca. Lei dà ragione a Brunetta? Scusi? Dà ragione a Brunetta? Ma guarda, io ritengo che Brunetta sia un bravissimo ministro. Questo adesso non ho sentito. Come non ha sentito? Esattamente, no, perché mi sono collegata adesso alle sue parole. Credo che abbia fatto un grande lavoro come ministro. L'unico che ha lavorato, diciamo, questo sicuro. No, l'unico che ha lavorato, non l'unico. È vero, perché molti ministri del governo Berlusconi, direi tutti, lavorano. No, quindi però una precaria che gli voleva rivolgere una domanda durante un convegno, questo lei lo saprà sicuramente, lì ha esagerato. Ha detto: l'Italia come l'Italia peggiore. Poi lui ha spiegato che era tutto preparato, un assalto mediatico, i manganellatori del web, io non dovevo rispondere perché non avevo tempo, dovevo andare dal Presidente della Repubblica, mi hanno insultato, eccetera eccetera. C'è troppa retorica sul precariato, come dice Brunetta? E quindi voglio dire, già Brunetta vi ha risposto. Non è che deve dare per forza ragione a Brunetta. Parole. che mi vengono riferite non è mia abitudine darle. Se avessi sentito in diretta l'atmosfera, perché poi il tono, la musica fa anche il tono, e quindi non esprimo giudizi. Rimane il mio giudizio su Brunetto, un ministro bravo ed efficiente. Ma quelli che irrompono nei convegni, impegno fa il proprio lavoro. Uno dei pochi. Ma quelli che vanno nei convegni e cercano di fare domande a un ministro, è sbagliato fare questo, come dice Brunetta? C'è quelli che irrompono. No, guardi, la differenza, lo spartiacque è l'educazione. Tutte le domande si possono fare con educazione e con il rispetto. Poi io non sono certamente un censore delle domande. Ma il video l'ha visto lei? Io no, quello che non mi sottraggo a voi. Ah, no, su quello c'è. Voglio dire, il peggio, quando interrogate. Il video l'ha visto? No, no, non l'ha visto. Non l'ha visto. Il video originale di quello che è successo di Brunetta, non l'ha visto? No, e allora, no, se non l'ha visto, se non l'ha visto, è giusto. Non dà giudizi. Ciò che non vedo, sono come San Tommaso. E allora, senta questa cosa che ha detto Straquadani, invece, sempre a proposito di quelli che usano il web, del perché usando il web fanno vincere la sinistra, non solo al referendum. Un'analisi anche qui di gran classe. Su questo un giudizio si può dare. Straquadani. Ma perché voi volete farmi dare giudizi su altri? Vabbè, ma la politica è fatta anche di questo. Come stessa, ma non è che siamo mica, voglio dire, a scuola con le pagelle. Beh, anche. Beh. Sentiamo. Perché su internet noi non vinciamo? Ma scusate, ragazzi. Hanno un esercito che alle 2 del pomeriggio va a casa e non fa un cazzo. Noi, perché il loro blocco sociale è l'impiego pubblico e noi non pensiamo che siano egemoni. Questo è un esercito di 4 milioni di persone che già all'impiego pubblico, non voglio dire niente, sennò il mio amico Brunetta si incazza. Già là, secondo me, loro smanettano di politica e non di pratiche pubbliche, non fanno il loro lavoro. Ma supponiamo che lo facciano tutto, qua tornano a casa alle 2, dalle 2 alle 10 di sera. Hai voglia il casino che monto in piedi se sto anch'io tutto il giorno dietro la tastiera? Allora, è vero o no, anche secondo lei, che i dipendenti pubblici smanettano su internet dopo che, siccome dopo le 2 non fanno un cazzo, come dice Brunetta? Ma guardi, di fare di tutto un'erba e un fascio è sbagliato. Ci sono dipendenti pubblici che fanno benissimo il loro lavoro e ci sono dipendenti pubblici che fanno i mantenuti dello Stato. Non si può generalizzare di una categoria. In qualsiasi categoria, anche nella sua, giornalisti, chi lo fa bene e chi lo fa male. Nella magistratura c'è chi fa benissimo il magistrato e chi lo fa male. Nella politica c'è chi fa... Quindi voglio dire, ma cos'è questa... Dunque Straquadani o sbaglia a generalizzare in questo modo? No, io non sto dicendo... Bacchettata Straquadani. Andare oltre. Bacchettata. Io parlo così chiaro e quindi non ho bisogno del traduttore, giusto? Ho capito, ma utilizzare questa espressione, c'è gente che non fa un cazzo, come dice Straquadani. È vero. Sì, d'accordo, ma sono, è per questo che sono più attivi su internet e fanno vincere la sinistra il referendum o su, non so. Questo non lo so, perché questo non glielo so dire. Se lei mi chiede come sono, se facciamo un ragionamento sui dipendenti pubblici, c'è gente bravissima, onestissima, che fa con impegno e passione il proprio lavoro. Come in tutti i settori c'è anche chi, voglio dire, lo fa male, ma mi stupirei del contrario. Senta, invece si è stupita del fatto che sono uscite quelle intercettazioni che riguardano lei, il signor Briatore? No, non mi sono stupita. Che sono state pubblicate e sono state trasmesse anche ieri in parte, cioè ricostruite a Ballarò ieri sera. Delle barbarie, voglio dire, io faccio dei commenti con un mio carissimo amico, non mi sembra di aver detto delle cose, voglio dire, pazzesche. E lì finisce, per me mi intercettano tutti i giorni, pubblicano tutti i giorni le intercettazioni. Paese della barbarie, che significa? Se questo piace va bene, io trovo che, voglio dire, pubblicare intercettazioni dove non c'è un reato, dove non ci sono, ma io non voglio vivere in un paese come quel film La vita degli altri. Detto questo, che bisogna fare? Che ne so, che fa? Che ha intenzione di fare? Bisogna fare che se Cruciani o Parenzo vengono a conoscenza di un'intercettazione, è meglio pubblicarla che tenerla nel cassetto e magari dire c'ho un'intercettazione. Ma come puoi dire che è meglio pubblicarla, Parenzo? Ma è evidente, premesso che non dovevano uscire, ma una volta che sono uscite, io se ho una notizia non la tengo nel cassetto. Scusi, caro attimo, Giuseppe Cruciani, ha fatto bene ieri Floris a ricostruire una delle intercettazioni, qualche intercettazione durante Ballarò. Ma ha fatto il suo mestiere, è un giornalista. O una cosa di sciacallaggio, signora? Guardi, io mi sottraggo, perché in questo paese sono già talmente tanti quelli che vogliono dare giudizi che non do. Beh, io questo la riguarda però. L'ho già spiegato qual è la mia posizione. No, d'accordo, è una barbarie, d'accordo. Intercettano tutti i giorni e pubblicheranno. Cosa c'è in quelle intercettazioni? No, vabbè, ci sono dei giudizi su Berlusconi, eccetera. No, no, mi sembra che si svilisca l'istituto delle intercettazioni, che dovrebbe essere uno strumento investigativo importante. Se poi le intercettazioni finiscono invece per mettere il pensiero di Briatore o della Santanchè legato a nessun reato commesso, lo trovo una barbarie, lo trovo una cosa tremenda. Però lì ci sarebbe, una notizia di reato in quelle intercettazioni. No, in quelle non c'è nessuna notizia di reato. Che notizia di reato c'è? Ma non diciamo cazzate. Ma che notizia di reato? Leggere... Ne dice tante. Ma... No, dico, onorevole Santanchè. No, io non ho nessuna di che reato sta parlando. No, a leggere quelle intercettazioni che non dovevano essere pubblicate, ma vengono pubblicate che tenere nel cassetto, scusa. Perché un giornalista quando viene a conoscenza di una cosa la deve pubblicare. No, però su questa cosa scusi, ma lei già misura le parole quando si parla di questo? Qual è il reato? No, ho detto che c'è un'apparente notizia di reato. No, ma che c'è nelle indagini che fanno sul Briatore, sì, ma non in quelle intercettazioni lì. Mi fate spiegare cosa intendo. Da una lettura di quelle intercettazioni, dalla lettura così come l'hanno pubblicata ai giornali, sembra che in quel dialogo il signor Briatore dice: guarda che quelle feste ci sono ancora. Ma l'indagine su evasione fiscale, su una presunta evasione fiscale. La prostituzione c'è ancora. Ma è un'indagine su una presunta evasione fiscale. E infatti, per essere corretti, la procura che indaga sul signor Briatore, e io mi auguro che venga assolto al più presto, glielo auguro perché io sono innocentista fino al terzo grado di giudizio, allora in quelle intercettazioni la procura che indaga su Briatore per evasione fiscale, e spero che sia innocente, cosa ha fatto? Ha stralciato quel filone. Ma chi te l'ha detto che l'ha stralciato? È evidente, perché l'hanno trasmessi a Milano. Parente, no, ma è quello che è accaduto. Vabbè. No, ma come che ne comunque la cosa che voglio sapere da perché si sta un po' troppo incasinando. No, a Ballaroy se l'aspettava da Floris una cosa del genere, la sceneggiatura di una delle intercettazioni, di qualche intercettazione, sì o no? Ma io non mi aspetto di tutto e di più, di niente di meno, ma chi se ne frega, poi la gente verrà giudicato per come fa il proprio lavoro. Ma quello certo. No, ho capito, però voglio capire che siccome... Ma voglio dire, fa ma ne è uscita benissimo la signora Santanchè, peraltro. A me che mi interessa. Dall'intercettazione? Ma da quell'intercettazione la signora Santanchè ne è uscita benissimo? Ma non è il problema se esco bene o esco male, ma le sembra normale che una conversazione di un mio amico che ho da quando ho 14 anni, ma certo, che sento da tutta la vita, devo sentire sui giornali i fatti miei che non c'entrano con nessun reato. Ma Parenzo, ma cosa vuole sostenere? No, ho detto che è c'è una cancro. Ma lei faccia attenzione, perché vede, come quando una persona non gli viene il cancro a sé, pensa sempre che il cancro tocchi gli altri, e chi se ne frega. Mi tocco a carne signora. Ma allora, ma siamo seri quando parliamo di queste cose qua? Poi io sono una persona che ride e scherza su tutto, però ha ragione su ma questo, ma non sulle persone sexy, no, non sulle cose serie. Siccome, voglio dire, sono una madre, un figlio che ascolta la radio, e sono una persona che lavora da sempre, non sono mantenuta dagli italiani, allora voglio rispetto quando si parla dell'intimo di una persona, di faccende che non hanno niente di pubblico, dove non ci sono reati. Ma infatti ho detto che lei ne è uscita benissimo. Ma non mi interessa. Lei ne è uscita come una gran signora che continuava a dire: mamma mia, ma è vero, ma che porcellana. Ma non è il contenuto, non sta parlando del contenuto. Ho capito. Uscire bene o male non è il mio problema, io sono a posto con la mia coscienza. Ma certo. Ma non è questo il punto. Ma il problema è che c'era un'indagine sul... Non mi lascia parlare. No, ma le sto... No, scusi Parenzo, lei adesso ascolta. Ho la borsa, un attimo, poi la lascio parlare. No, io metto giù, le parlo con qualcun altro. No, un attimo solo, ho la borsa che devo mandarla per forza, poi torno con lei. 800 24 00 24. Bene, la Zanzara, 1938 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Con noi Daniela Santanchè, sottosegretario al Ministero dell'Attuazione del Programma. Intanto esce una notizia che sicuramente farà discutere, un'anticipazione dell'Espresso, ripresa subito da Dago Spia. Io lo leggo così come la mette Dago Spia, naturalmente nel linguaggio che usa D'Agostino. Mentre l'Italia lo fotteva alle urne, il banana, che sarebbe Berlusconi, pensava a fottere a Villa Certosa. Quella che vedete è solo una delle immagini che il fotografo Zappadu ha scattato nel pomeriggio di domenica 12 giugno da una collina accanto alla villa, dopo il weekend sardo con due Bunga Girls, così dice Dago Spia. Il Cavaliere Pompetta è tornato direttamente a Roma, eccetera eccetera. Tu hai notizie in più su questo, mi sembra? Io ho notizie, nel senso che domani mi recherò in Sardegna e realizzerò un servizio, un reportage, inchiesta. Ecco, ma cosa ti ha detto con Zappadu? Il fotografo. Cosa ti ha detto Zappadu? Che ci sono non fotografie? Non sono autorizzato a rivelare... Adesso, no, non sono... Parlate con il mio avvocato. non sono autorizzato a rivelare. Cioè, ci sono fotografie piccanti? È una fonte segreta, è una fonte coperta, sì. Cioè, ci sono fotografie? Ci sono delle foto che... No, seriamente, ci sono... No, sto parlando seriamente. Ho parlato oggi con Zapadu, ho preso un appuntamento, domani volo a Olbia, il titolo sì. è Parenzo a Olbia, sì. da Zapadu, e farò questa intervista, reportage, per farmi raccontare da lui stesso. Che tipo di foto sono, che tipo quando di foto le ha prese. Sono. Cioè... Ne prenderò visione, anche, prenderò visione. Ma non è strano, signora Santa, che ogni tanto torna Zapadu con queste foto? Strano, adesso fa il suo lavoro, fotografo, che deve fare? Fa il fotografo, amico mio. Ho capito, fa il fotografo, ma dove le ha prese queste foto? Ma non lo so, avrà staccattato delle foto da fuori dalla villa, cioè non possono far foto. Nuove foto di Villa Certosa, lei che dice? Che reato avrebbe commesso, scusi? No, nessun reato, Berlusconi nessun reato, sarebbe stato con delle ragazze nello scorso weekend a Villa Certosa, sembra. Da quello che riporta l'Espresso con queste foto, avrebbe passato... Quelli i bisogni cioè, che ha le persone, la gente, di parlare di cose serie. Non lo so, ho capito, ma questo... Se però fosse vero... Andiamo avanti così. Qualora fosse vero... Onorevole Santa, che lei converrà con me, che qualora fosse vero... Ma guardi, io con lei non convengo su niente. No, ma... Converrà con me... No, qualora fosse vero, che cosa? Perché uno non può passare un weekend con delle persone a casa sua? Abbi pazienza. Siete due persone simpatiche, però voglio argomentare. Cioè, argomenta, ma non ho capito. Qualora... Voi converrete con me che qualora risultasse che queste feste con queste modalità, diciamo, descritte dalla Procura della Repubblica, continuano, beh, è un po' curioso, no? Sarebbe quanto mai curioso. O mi sbaglio? Ma non so, ma queste non sono feste, sono delle foto riprese a Villa Certosa, che non è che sono delle feste, sono delle foto che... foto all'aperto, mi pare. All'aperto, no? Per forza all'aperto devono essere queste foto, tra l'altro, non potrebbero essere al chiuso. E quindi cosa, che foto potranno essere? No, non se non è vero che, come rivela Dagospia adesso, in questo istante, se è vero che ci sono delle foto recentissime, di pochi giorni fa, in cui il presidente sarebbe magari fotografato anziché con un uomo con due donne, e il problema qual è? Che deve andare in giro da solo? Ma cioè, no, ma dipende. Non lo so, che io non posso ricevere a casa mia un uomo. Ma dipende che foto sono. Se si... Ma dipende che foto. Ma l'Espresso non credo sia le ore, no? Credo che saranno delle cose. No. Cioè, no, le ore no. Le ore non c'è più, credo, anche se non lo so, credo che non c'è. Volevo solo precisare la notizia di prima. Ma posso dire? L'intercettazione tra l'onorevole Santanchè e il signor Briatore è stata stralciata e data alla Procura della Repubblica di Milano. Io do una notizia, poi i commenti fateli voi. I commenti le fa lei, la pagano per questo. Ma no, ma non ha fatto. No, Parenzo vuole dire che i magistrati hanno preso quelle intercettazioni e le hanno date alla Procura di Milano. Dunque di potrebbero avere, secondo l'interpretazione di Parenzo, no, secondo me, una rilevanza penale. Non secondo me. No, mi sembra no che... ma non secondo. No, furbo. No, amico mio. E secondo chi? Così. Secondo i magistrati secondo che la hanno... Beh, scusi, se uno o le butta via quelle intercettazioni, le cose sono due. Tertium non datur, dicono i latini. Se ci sono delle intercettazioni, o vengono stralciate e quindi neanche messe agli atti, oppure vengono inviate alla procura di competenza. 2+2. Evidentemente i magistrati che indagano sul Briatore per la vicenda di evasione fiscale, e spero che venga assolto al più presto, hanno stralciato quelle sul cosiddetto Bunga e quanto sui... Dopo questo suo sproloquo, l'odio della trasmissione precipitata. Adesso fa anche l'audio. Io vedi come anche Audi... interessi vostri. Fa anche Audi Radio la signora Santanchè adesso. Che è sospesa. Ve lo dico, ve lo dico. Do una notizia, perché dopo sta roba qua hanno cambiato. Senta, ma l'assalto militare della Boccasini, come l'ha sentita questa cosa? Sì, questa l'ha letta, l'assalto militare. Cioè c'è stato la notte del 27-28 maggio del 2010, quello che era, un assalto militare da parte della Minetti più la signora Michelle Conceição sotto la regia di Berlusconi alla questura di Milano. Che ne pensa? Bei termini che usa, voglio dire, un PM. Assalto militare, sono dei bei termini che mi augurerei che un servitore dello Stato non usasse. Preferiremo tutti un linguaggio assolutamente più consono al ruolo che si ha. Beh, è anche vero che lei sa, nel processo si usano anche parole, gli avvocati, i pubblici ministeri usano parole roboanti per un po' colorire quello che è successo, non è una cosa così bizzarra. Certo, anche a me è sembrato francamente un po' eccessivo. Anche a me. Pensi un po' anche a Parenzo. Un linguaggio che non so, va un po' oltre. Anche secondo me. Di moderare i toni. Ecco, anche ma non si potrebbe dire che l'assalto militare invece è della procura nei confronti di Berlusconi? Ma beh, io adesso lei mi ha chiesto un giudizio, voglio dire, sulla parola assalto militare. Sul linguaggio. Io dico, ci sono tutti qua che dicono moderare i toni e tutto. Se non so, assalto militare, ma che tono è, che modo è di dire, di esprimersi, di fare. Mi sembra, no? Va bene, sai, in un processo è una follia l'assalto militare, cioè una, perché poi lo diceva seriamente, non lo diceva in realtà in una forma retorica. No, cioè, ma io quello che mi immaginavo è che doveva il, cioè, il suo intervento doveva essere in punta di diritto nel Tribunale di Milano. Lei, la PM, doveva respingere quello che era invece un fondato attacco della difesa di Berlusconi. Invece fa cinema, diciamo, fa folklore. No, invece risponde, voglio dire, con un attacco mediatico e con l'uso spregiudicato di certi, di un linguaggio che è mediatico per fare scena, per fare colpo, che cos'è? No, no, io non dico questo, io sto parlando del linguaggio. C'è una cosa fatta apposta per i giornali, un attacco mediatico, lei ha detto. Ma perché mi sembra che non è che qua si punti alla verità e quindi sì, voglio dire a una realtà processuale che giustamente tutti devono indagare, decidere tutto, ma qua mi sembra invece che si punti ad in generale nell'opinione pubblica il dubbio. Cioè, nell'opinione pubblica un giudizio prima di una condanna. Una sortita mediatica più che... È un linguaggio che non mi piace, che non vorrei sentire da parte dei PM, assalto militare. C'ha ragione. Sono termini che non dovrebbero esistere. Su questo ha ragione. Io non faccio il proprio lavoro. Su questo ha ragione. Che il PM faccia il suo lavoro. E invece in questo caso che ha fatto? Che ha fatto? Il tribuno che ha fatto in questo caso? No, ho usato un linguaggio che non mi sembra un linguaggio appropriato a una persona come lei che svolge un'attività assolutamente molto importante. Che stavi vedendo lì? Precisamente questo. Sì, che stavi vedendo lì delle foto ancora? No, stavo guardando. Cioè, io mi auguro, io penso che il PM è quello che debba parlare delle prove, che dimostri le accuse. Vabbè, no? È un modo, volendo, secondo me assurdo, eccessivo, per magari per dire che vabbè, c'è stato... Ma insomma, le fanno delle obiezioni giuridiche, io penso che si risponda con un linguaggio giuridico. Se poi questo è il linguaggio giuridico, non lo so, rimango un po' sorpresa. Grazie, signora Santachè. Buona serata. Grazie, 30 secondi, torniamo subito. Intanto stai guardando delle foto di Berlusconi che... Sto guardando le foto, una foto pubblicata da Dagospia, Bunga Bunga Forever il titolo, l'Espresso, e c'è un Silvio Berlusconi vestito in modo molto sportivo con due... devo dire belle signorine, ma non si vedono bene da vicino, non proprio abbracciate, cioè non si capisce, è una foto, cioè Berlusconi in mezzo, queste due signorine vabbè, su un balcone. È l'ultimo weekend quello elettorale del referendum, l'altra parte Berlusconi ha detto che non sarebbe andato a votare, dunque a Villa Certosa si trovava, cioè non è strano. 30 secondi, torniamo subito. Eccoci qua con Felice Belisario. Come che sta? Canzone che l'abbiamo preparato. Come sta? Pinguino Belisario. È felice? È una canzone bella battuta. Ho detto una stupidaggine. Io avevo una nipote che mi chiamava zio contento, capito? Per cui ma questa era, rimandiamolo un attimo, Pinguino Belisario mi fa ricordare molti ma molti anni fa, è uno zecchino d'oro. Esatto, bravo. Belisario che si è offerto volontario. Ah, la sa memoria. La canti. Il pinguino bellissimo. Senatore, la canti. Non esageriamo. No, certo, non esageriamo. Non è pur sempre un senatore della Repubblica. Sento una cosa, senatore, ma la parola Belisario da dove viene? Che origine? Generale Belisario, quindi ha origine bizantina. Bizantina, addirittura. Giustiniano. Codice giustiniano. Esattamente. Ragazzi, nome di, no, di... Il generale che... E viene mandato da Giustiniano a conquistare l'Italia. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, il nostro ospite, il capo dei senatori dell'Italia dei Valori, Felice Belisario, è diventato improvvisamente l'Italia dei Valori un partito moderato, partito che non vuole più le dimissioni di Berlusconi, che non vuole più la caduta di questo governo, vuole che questo governo sopravviva fino al termine della legislatura e magari anche felicemente. Così si legge nelle analisi di fini politologi. Fini politologi a volte sono un po' strani. Noi chiediamo le dimissioni di Berlusconi in pratica dal giorno dopo che la legislatura è iniziata. Beh, questo mi sembra un po' eccessivo. Non è eccessivo. Come da giorno dopo. Adesso spiego. Ecco, mi spiego. Avendo conosciuto Berlusconi per quello che ha fatto prima, noi volevamo che gli italiani lo evitassero, per cui lo mandassero subito a casa. E invece l'hanno votato. E invece l'hanno votato. E, dopo e poi un minuto dopo già chiamava le dimissioni. E certo, perché ha cominciato a fare tutto quello che non doveva fare. Noi ci ricordiamo. Ma almeno qualche giorno per metterla alla prova, poverino. È partito subito il lodo Alfano. Ah. E quindi da lì è stato un crescendo. Vabbè, comunque noi, è vero che siete diventati un po' moderati. Ma... adesso il Partito Democratico dice elezioni subito. E voi? Beh, no. Noi stiamo chiedendo le elezioni da sempre. Da sempre. Loro lo chiedono da quando... è stato vinto il referendum. Noi diciamo questo governo anche nei ballottaggi in realtà questo governo se ne deve andare, perché non fa una politica sui giovani, non fa una politica per le imprese, non riduce il fisco, la sicurezza è quello che è. Cioè la riforma universitaria è quella che Brunetta ne combina di tutti i colori. Vediamo un giudizio su Brunetta così rapido uno dei suoi, uno da Belisario, Tranchant. È un bravo studioso, ma se venisse a scuola di politica l'avrei già bocciato. In che senso? A scuola di politica ma perché un politico che offende che, o comunque si sottrae alle discussioni con i precari evidentemente o non sa che dire oppure è scostumato. Allora in questo caso secondo lei non sa che dire oppure è scostumato? Non sa che dire, non è scostumato proprio. No, tutti quanti dicono che è scostumato, perché, Brunetto un po' si irrita facilmente. Ognuno ha il carattere che ha. Certamente lui è in difficoltà perché questo governo ha affossato i giovani. Però era un po' un attacco mediatico, uno che arriva là sul palco, la rete dei precari, c'è un po' di demagogia pure su questa questione dei precari. Attacco mediatico. Costruito con le telecamere lì, tutti pronti a riprendere. Attacco mediatico. Killeraggio, lui dice, un manganellamento mediatico. Ma se mai chiesto Brunetta perché a Venezia l'hanno bocciato anche da sindaco? Vabbè, questo magari non lo so, magari è meglio lo chiediamogli. Perché è stato bocciato? Perché probabilmente se si comporta così anche nei confronti dei suoi elettori, evidentemente gli elettori non l'hanno votato. Però è molto acclamato. Nei sondaggi fino a un certo punto era uno dei ministri più popolari. Più popolare, sì. Ma guardi, non parliamo di una persona sciocca, è sicuramente... È uno dei migliori, no? È sicuramente, dica la verità. È sicuramente un uomo intelligente. Però che difetti ha? Però i difetti sono quelli che non può fare il professore in ogni momento della giornata. Bisogna mediare con chi è in difficoltà, bisogna fare leggi che funzionino, bisogna avere un dialogo continuo e qualche volta pigliarsi anche una tirata d'orecchie. Umiltà, come dicevi tu, no? Com'è? Umiltà, cari amici della Zanzara, quando un ministro della Repubblica, di un governo, caro Belisario, già traballante e in grave crisi di credibilità, quando un ministro rifiuta un confronto con una povera, mi segua, con una povera precaria sottopagata, ci sono solo tre parole da dire, ripeta con me, Brunetta a casa! Brunetta a casa. Questo è lo sfogo da due giorni di Parenzo, prima sul governo e poi su Brunetta. Però voi non lo dite più a casa, dite elezioni no, tanto non... Perché non dite elezioni subito? Elezioni subito le decide il capo dello Stato. Ho capito, però quello anche prima le decideva il capo dello Stato. Però, quando le chiedevate. Però noi l'abbiamo chiesto il 14 di dicembre. Abbiamo votato una mozione di sfiducia che è passata. Com'è passata? Sì. Dio solo lo sa. Da allora. Come è passata? Con un po' di voti raccattati. Comprati, dice. Poi qualche altro voto l'ha comprato anche dopo. Adesso noi gli chiediamo di dimettersi. Se ha i numeri, i suoi provvedimenti passano e noi gridiamo al lupo, ma non lo catturiamo. Allora noi dobbiamo fare di tutto per fare opposizione, come la stiamo facendo, per far venire fuori le contraddizioni, spaccare questa maggioranza. Se la Lega, come ci auguriamo, staccherà la spina, andiamo a votare per il bene del paese. Insomma, comunque la realtà è questa. Secondo alcuni, a voi conviene che Berlusconi stia ancora due anni così, con l'anti-berlusconismo, cercate di riprendere quello che fino adesso in realtà avete perso nelle ultime elezioni. Una bella batosta pure per l'Italia dei Valori. Come mai? Un po' sì. Come mai questa batosta? Cioè, un po' di voti, chi ve li ha presi? Voti Vendola? Grillo? Grillo? Allora cominciamo a dire che il risultato non è stato il risultato che noi ci aspettavamo, questo non c'è dubbio. Punto, che però noi abbiamo raddoppiato in voti e seggi quello che abbiamo pigliato nel 2006, questo è un dato. Vabbè, adesso, il dato non è il 2006, però. E come no? Comunali, mi fa come la Lega, mi fa come la Lega dice. No, comuna, io ho fatto una premessa. Ho detto il risultato non è quello che noi avremmo. Qui mi fa molto il politico. Che avremmo, Che avremmo voluto. Qui mi fa molto il politico. Ma lo faccio, per cui. No. Però noi siamo convinti che su elezioni omogenee noi prenderemo i voti che abbiamo preso prima. Vabbè, quello è una vostra speranza, naturalmente. Ma chi è che ve li ha sottratti questi voti? Perché comunque i voti li avete persi, cioè, rispetto alle elezioni precedenti, rispetto agli ultimi anni. Vendola in primis? Ma c'è una redistribuzione di voti all'interno del centro. Grillo pure? Grillo può essere. A Milano ha preso il 5%. Quasi. Ma guardi, i numeri sono testardi, dico che sono lì, non è che si contestano i numeri. Possiamo spiegare le ragioni per cui siamo, le cause per cui ci sono stati quei numeri, però è evidente. Senta, ma Grillo, che c'è stata una defiance che è venuta fuori. Mi dica una cosa su Grillo, una cosa delle sue, molto tranchant, che fa capire la situazione. Il vostro rapporto con Grillo, ma dovete superare. Un titolo su Grillo. Boom. Grillo, Belisario, la protesta è superata ormai. Cioè, non è... Grillo protesta. Vabbè, questo non è un titolo. Solo questo protesta, è... cioè solo protesta improduttiva. Io non ho detto improduttiva. Voi mi avete detto un titolo, io ho detto la protesta funziona per scardinare il sistema, però la protesta deve trasformarsi in azione di governo. E Grillo è capace di questo? Non è capace di questo, di trasformare in azione di governo. Noi riteniamo che Grillo deve continuare a svolgere questo ruolo, ma non deve mandare all'ammasso i suoi voti, ma devono i suoi voti funzionare per migliorare il sistema. Dunque si deve alleare con voi. Noi riteniamo che Grillo sia una grossa risorsa. Quindi Di Pietro e Grillo insieme, Italia dei Valori e Grillo insieme alle prossime elezioni, è questo che lei dice? No, non ho detto questo. Ho detto che Grillo non può andare da solo perché non può? Andando lo fa già. No. Lui dice che non può. Se vuole mandare a casa il centrodestra. Ho capito, ma lei sa che Grillo dice che i partiti fanno tutti schifo. Ho capito. Però, dunque anche voi fate schifo, in teoria. Per l'amor di Dio, noi invece... Ma ditegli qualcosa di forte a Grillo. Quando dice queste cose, io vorrei che quelli che fanno politica in maniera... Noi gli diciamo che non basta protestare, bisogna proporre e cambiare il corso della storia d'Italia. Vabbè. Pubblicità. Vada, senatore, com'è che fa la canzone? Com'è che fa? Canti con noi. Pino Belisario si prepara serio all'impresa leggendaria. Ma la sa o no? Ma questa c'ha almeno 50 anni, questa canzone. Ma la prendono in giro anche per la sua. Ma non è, in realtà non è molto pingue lei. Insomma. Beh, sì, quanto pesa? Quanto pesa? Sì. Molto. No, quanto? Beh, diciamo. Molto. Trasparenza ai nostri deputati. Si sente un po' pinguino anche nella... Appena sotto i 100. Appena sotto i 100. Cioè 98, quanto pesa? 98. Più o meno. 98, tra i 98 e i 100. Bravo. Si sente un po' pinguino da questo punto di vista? No, sì. Mi sento... Non se ne deve vergognare. Mi sento chiatto. Si sente chiatto? Sì, ma lei non fa come il senatore Villari, che a un certo punto ha iniziato una dieta pazzesca, ti ricordi, Parenzo? Una Villari? Dieta. Sì, il senatore Villa. Ce l'ha detto in esclusiva alla Zanzara. Una sera ce lo disse qui alla Zanzara. In esclusiva, cioè, assoluta. Si porta dietro una sorta di sacchetto, fa una dieta particolare in cui prende solamente delle sostanze per una settimana e si dimagrisce 10-20 kg. No, una settimana si perdono solo 5 kg. Ma lei prova a fare qualche dieta? Non ce la fa. Non sono assolutamente costante. Più forte di lei. Allora mi dica una cosa su questa cosa delle elezioni, su questo nuovo moderatismo, IDV 2.0. Così ha detto Di Pietro, il suo leader l'ha detto, non è che l'ho detto io. Ha detto IDV2, sì. Io dico IDV 2.0. L'ha modernizzato. 3.0. Io sono uno di quelli che, come dice Stracquadanio, che dopo le 14, anzi dalle 8 di mattina, vado là su internet. Però Stracquadanio, per lavorare, bisogna dire che internet, specialmente chi risponde a internet, lo fa dopo cena, non dalla mattina. Senta, insomma, voi se il PD presenta una mozione di sfiducia, la votate sì o no? Il PD non presenta una mozione di sfiducia. Noi riteniamo che la mozione di sfiducia sia inutile. Non va presentata? Perché non va presentata. Dunque non la presenterete voi come Italia dei Valori? L'Italia dei Valori non presenterà mozione di sfiducia. Inutile, perché comunque Berlusconi ce la farebbe. C'ha i numeri. Però è strano, eh? Perché? È strano, in un momento in cui se ne vanno tutti, Micichè fa la Forza del Sud, c'è un po' di, come dire, sfarinamento, certo, no? Certo, lo sfarinamento... E voi state a dire, no, no... No, in Parlamento c'hai numeri... Lo sfarinamento significa che nel momento in cui facciamo immediatamente una mozione di sfiducia, un secondo dopo noi ricompattiamo la maggioranza deve cadere sui provvedimenti. Beh, può cadere anche per una mozione di sfiducia parlamentare. Lei dice no, lei mi ha fatto una domanda e io No, certo. Comunque, inutile la mozione di sfiducia. Noi riteniamo che la mozione di fiducia abbia l'effetto soltanto di mettere insieme. Ma non è che vi conviene, ritorno alla domanda iniziale. No, noi Berlusconi vogliamo... al governo, vi conviene anche a voi, ma sì o no? Che farete dopo? All'Italia che farete? Dei valori quando non ci sarà più Berlusca? Ma cosa farete voi quando ci sarà più Berlusca? Ah, ecco, adesso arriva. Forse capisce perché parliamo di TV2, siamo pronti al governo del paese, quindi anche nei toni. I TV2 sono come amici miei, ma non secondo, cambiamo, ma non cambiamo la sostanza del nostro stare in politica. TV2 dovete anche fare proprio la un trailer, no, coming no, soon, no, presto no. Al cinema. Però, vedete, TV2. una differenza tra il senatore Belisario di oggi, che pure per carità ne dice di tutti i colori, per cui ce n'ho di cotte e di crude, che ha detto anche sul direttore generale Rai, lei, Elena ha detto di tutti i colori, lei, certo, Lorenzo, ha parlato di micosi infetta, una micosi infetta che sta destabilizzando dall'interno il servizio, una micosi infetta, che è arrivata da un mese, che ha fatto, ma proprio perché è riuscito a mandare via Santoro, dice lei, perché stando dall'interno, conoscendo i meccanismi, ha capito come riuscire a narcotizzare l'informazione. Cioè, peggio lei di Masi. Ma Masi, poverino, doveva andare via perché ha fatto danni, ma i danni che farà da lei saranno peggiori. Ma che farà? Per esempio, che sta facendo? Uno che ne ha fatto, qual è? Santoro. E certo. Il primo, l'unico forse. Perché Per adesso solo Santoro. Vediamo gli altri. La denuncerete alla Corte dei Conti o no? Chiederete alla Corte dei Conti di intervenire, la denuncerete? Che cosa si può fare contro la lei che vuole, che minaccia il servizio pubblico, come dice lei, e alla fine toglie soldi alla RAI, perché Santoro porta soldi alla RAI, certo, secondo la vostra analisi. E certo. Che farete? E dunque che farete? Ma non solo toglie soldi, toglie informazione e fa un attacco mortale al pluralismo. Veda, Masi, un po' per l'insipienza del personaggio. Cioè, come lo definisce lei? Un personaggio, un uomo abbronzato, di mezza età, però la direzione della RAI è un'altra cosa. Cosa, inadatto, lei dice, un gagà, come lo vogliamo definire? Questo lo dice lei. Lei ha detto un abbronzato, congessato. La direzione della... l'ha dimostrato telefonando in diretta a Santoro, non sapeva neppure cosa dire, insomma. Cioè non sa di quando si parla di televisione, non sa di cosa si parla, cosa dice fare, lei. Certo. Sa di cosa si sta parlando, c'è un altro mestiere, certo. Un altro mestiere. Mi piace quando dice certo, perché rincara la dose, capito? Certo. Una micosi mi sembra esagerato, un po' forte. E infatti vedrete i danni che combinerà. La denuncerete addirittura? No, adesso non esageriamo. La denunceremo, vediamo i danni che farà, certamente non... Danni erariali. In procura, che fa? No, ne denunceremo i comportamenti. Io ritengo che se continuerà a fare in questa... Dobbiamo lanciare la campagna Occupiamo la RAI è nostra, e lo chiederemo ai cittadini. Cioè chiederete ai cittadini, farete dei presidi davanti alla RAI? No, la occupiamo la RAI. Come la occupiamo? La occupiamo, la RAI va occupata. Cioè farete un'occupazione fisica? No, certo, noi chiederemo ai cittadini di occupare la RAI, perché la RAI è di tutti. Non è possibile che venga gestita e lottizzata come sta avvenendo. E come, che significa occupare la RAI? Quello che ho detto. Concretamente. Vocabolario italiano. No. Si entra dentro e non si esce più. E non si esce in un'azione di protesta. Incatenati loro continueranno a trasmettere, ma noi saremo nella RAI. Cioè, beh, scusi, occupare la RAI è una lo facevano i radicali. Oltre che i radicali, che in realtà non lo occupavano. Ma noi lo facciamo anche per rispondere a quello che mi dite, che noi siamo un partito moderato, vi dimostriamo che noi siamo sempre l'Italia. Quando andrete lì? Questo glielo diremo un momento prima. L'occupazione militare della RAI, no, la proposta militare, militare lo lasciamo alla Santanchè. Non è militare, perché noi non avremo le armi. No, i militari non l'ha detto la Santanchè, l'ha detto la Boccassini. Sì, ma l'ha ripresa la Santanchè. No, però quindi vorrei capire questa cosa. Dunque, per evitare che la lei faccia danni, ulteriori danni dopo la caccia di Santoro, lei propone: noi occuperemo la RAI. Certo, fate? Mi, oggi cioè, entrate dentro, vi stendete per terra. Il che fate? Paese l'ha dimostrato con il mondo della rete e con i referendum. È pronto ad azioni di proteste eclatanti per cambiare il corso della storia e quindi anche il corso della Ma l'occupazione della RAI. Allora, il garante delle comunicazioni dice che il canone viene... non viene pagato. No, ma non entriamo nei dettagli. Ci spieghi come funziona l'occupazione della RAI. L'occupazione della RAI, cioè, significa... Voi farete... Ma l'avete già organizzata, la data ci sa già? No. L'è venuta adesso in mente, qui? No, no, non mi è venuta in mente. Ci sto ragionando da giorni. Ma è uno scoop che lei ci dà. È uno scoop. Noi abbiamo necessità di fare... Perché non bastano i comunicati, non bastano le denunce. Parliamo con la GCOM, non riusciamo a ottenere nulla, non resta altro che entrare nella RAI e dimostrare che la RAI è dei cittadini e non dei partiti che la stanno Le faccio presente che con questa RAI che dice lei, Berlusconi ha perso i ballottaggi, le elezioni amministrative e il referendum, cioè non mi pare che ci sia un'occupazione mediatica, insomma. Cioè, caro senatore Belisario, le faccio presente detto questo. Detto col massimo rispetto. Sì, e infatti i referendum l'hanno fatti di notte, cioè la pubblicità e la propaganda referendaria l'hanno fatta di notte in modo tale che nessuno capisse. Sì, ma il problema conta il risultato, però. Quindi gli lasciamo tutte e sei le televisioni, gli continuiamo a lasciare i giornali. La democrazia è un altro concetto. Come l'occupazione militare a cosa porta? Noi abbiamo bisogno che ci mandate a condurre i cittadini. No, io non c'è l'occupazione, come si svolge? Occupate e poi che noi entreremo nella RAI saremo dentro mentre ognuno rispetterà il suo contratto. Ma con i panini, e poi con lo zaino, sarete dentro a che fare? Dormite lì dentro? A che fare? State là dentro a che fare? A dormire? Certo. Come a dormire? Come a far sentire, il fiato sul collo della pubblica opinione. Ho capito. Cioè, voi entrate dunque a Viale Mazzini? Dove è prevista questa occupazione? Beh, la RAI trasmette, Saxa Rubra. Ovunque. Certo. Quindi cellule dell'Italia dei Valori pronte a marciare sulla RAI. Cellule dell'Italia dei Valori e non solo, dei movimenti, i cittadini comuni, gente che entrerà dentro perché è stufa. Con lo zaino. È stufa del TG1 che viene pagato con i soldi pubblici e fa la propaganda. Scusi, però in soldoni, questo significa, per chiudere, cacciare la lei con i forconi, andare da Minzolini al TG1, andare davanti mentre trasmettono. No, far capire al consiglio di amministrazione che in questa maniera non si va avanti. Vabbè, senatore Belisario, la ringrazio molto. Grazie, ci ha dato una notizia. Grazie. Buona serata. Buon lavoro, mi raccomando. Non vi suicidate per questa notizia che vi ho dato. No, non oltretutto, voi lavorate meglio. Quindi, però ci faccia sapere quando ci sarà questa occupazione della RAI. Perché so da domani. Lei è serio? Ma quando potrebbe avere? Tra qualche giorno? Ci dica qualcosina di più. Qualche giorno? Truppe dell'Italia dei Valori in marcia pronte sulla RAI. Pronte a marciare sulla RAI. Mi piace. Pubblicità. Eccoci qui, 20:13, Giulia Innocenzi, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Chi c'è con te, Giulia? Com'è che fa Santoro quando presenta? Chi c'è con te, Giulia? Già lo sai, perché dice? Perché glielo chiede prima? Di la verità, Giulia Innocenzi, collaboratrice di Anno Zero, nonché autrice di un libro che ha come titolo Meglio Fottere, è un libro di sesso, diciamo la verità. Bah, devo subito disilludere tutti, non si parla di sesso. Manco in una riga si parla di sesso. Parla di sesso quando la politica fa un po' di sesso, che purtroppo sta succedendo sempre più spesso. Edito da? Editori Riuniti. Allora, solo 15 euro. Quando Santoro in trasmissione dice, com'è che dice esattamente? Chi c'è? Vabbè, andiamo da giù. Beh, prima ci sono stati tutti i precari. Lavoro, straguadagno, ladro, lavoro. Tutta questa demagogia così poi? Vabbè, questa è cronaca, c'entra. Come straguadagno, ladro? Vabbè. Ora sentiamo, posso replicare? Dopo. Intanto sentiamo, chi c'è con te, Giulia? Abbiamo un ospite qui. Straguadagno, ladro. Dall'alto, dalla balaustra lì. No, i miei ospiti sono sempre più moderati dei politici. Beh, ogni tanto sì, ogni tanto dipende, anche lì dipende, qualche volta li scegliete moderati, però in realtà poi lui lo sa benissimo, no? Lui lo sa benissimo chi c'è là, è tutto un gioco. È un espediente narrativo, no? È un espediente narrativo. Ma sì, è un modo per far introdurre, ragazzi, insomma. Vabbè, scriviamo di capire. Allora, facciamo risentire uno degli audio del giorno, però, che è quello dell'onorevole Giorgio Straquadano, che in realtà è un audio di ieri. Onorevole Straquadano, buonasera. Buonasera a lei. Frase pronunciata dove? Moderato Straquadano. In un convegno sull'informazione. Sentiamo. Nell'ambito di un intervento un po' più lungo. Adesso non faccia il paraculo con noi. È quello che estrapolate un coso, bisogna contestualizzare, eccetera. Quello che è detto è detto. No, l'ho detto, te lo confermo, ma voglio spiegarlo meglio. Adesso lo spiegheremo. Perché su internet noi non vinciamo? Ma scusate ragazzi, hanno un esercito che alle 2 del pomeriggio va a casa e non fa un cazzo. Noi, perché il loro blocco sociale è l'impiego pubblico e noi non pensiamo che siano egemoni. Questo è un esercito di 4 milioni di persone che già all'impiego pubblico, non voglio dire niente, sennò il mio amico Brunetta si incazza. Già là, secondo me, loro smanettano di politica e non di pratiche pubbliche, non fanno il loro lavoro. Ma supponiamo che lo facciano tutto, qua tornano a casa alle 2, dalle 2 alle 10 di sera. Hai voglia il casino che monto in piedi se sto anch'io tutto il giorno dietro la tastiera? Beh, qui ci sono due questioni. La prima è: lei dà per scontato che tutti i dipendenti pubblici siano un blocco? Vuole sapere le cose? No, voglio sapere. Se tutti cominciamo due, con l'interrogatorio? No, no, anche lei, insomma, è una due domanda, questioni. Perché siete così allergici alle domande? Ma perché qua si chiacchiera. No, sì, ok, però ci sono anche domande. Se no faccio l'occupazione di Radio 24. Anche lei. Come se la contestuale, contestuale. Così lo sapete però, in tempo reale. Mi scusi, lei dà per scontato che tutti i dipendenti pubblici vuole sono sapere come un saputo? Blocco sociale? Vuole sapere come l'ha saputo oggi di questo video? Però il video è perché qualcuno l'ha ripreso, cioè saranno state le telecamere. No, vuole, come l'ho saputo io. Come l'ha saputo? Viene mio collega come l'ha saputo. No, perché è interessante. È clamoroso. Cioè, no, non è clamoroso, è interessante per capire. Viene un collega parlamentare del mio gruppo e mi dice: ci sono due amici miei che ce l'hanno con te. E dico: perché, che gli ho fatto? Ah, dicono che sei andato in un convegno e hai detto che i dipendenti pubblici non fanno un cazzo, stanno tutto il giorno a smanettare su internet. Ho detto: ma come lo hanno saputo, visto che non c'era scritto una riga di quel convegno su nessun giornale? L'hanno visto, mi ha mandato il link sul sito di Repubblica. Ho detto: e a che ora? Alle 10. E allora c'ho ragione. Ecco la prova. Ecco la prova. Ecco la prova. Cioè, ci sono quelli che vivono alle 10 del mattino. Cioè, Brunetta ha subito un assalto mediatico? Uno che fa un altro mestiere alle 10 del mattino sta a vedere non solo il Repubblica.tv, ma va a cercare il video che mi riguarda in un angoletto. Magari l'amico, quando lei sta in Parlamento, un giornale chatta con il, come si chiama lì, l'iPad. Si vedono molti deputati che nelle pause legittimamente giocano con l'iPad. E un dipendente non può per 5 minuti andare. Ma che siamo? Allo schiavismo americano? Non siamo allo schiavismo americano. Col padrone. Che è il padrone? No, il padrone. Ha chattato 5 minuti su internet. Taglia la mano. Sa che in moltissime aziende è inibito l'accesso a Facebook, è inibito l'accesso. E dovrebbe essere nella pubblica amministrazione, secondo lei? Secondo me, quando uno lavora, lavora. Dunque, nella pubblica amministrazione bisognerebbe togliere l'accesso a Facebook e l'utilizzazione di internet per fatti privati. No, è per fatti privati, sì. Dovrebbe essere impedito. Sì, certo. Quindi voi non andate mai, su Facebook quando siete alla Camera? Esatto. Mai? Lei mi garantisce, e se ci sono dei suoi colleghi di partito che durante i dibattiti alla Camera vanno su Facebook, io parlo per me. Io considero quei miei colleghi che sono stati inquadrati, che giocavano con l'iPad, come dire, persone che non fanno bene il loro dovere. Dunque, perché no, quando si sta in aula si ascolta, si partecipa, e se uno quel provvedimento lo conosce, non deve intervenire, magari, come dire, si sta occupando d'altro. Si alza. No, può fare che cosa? Rispondere alle mail, leggersi i dossier, no, giochicchiarci. Quell'affare non ce l'ha andato per giocare, per l'intrattenimento, per fare il, come si chiama quel gioco, durante, il Mac, là, qualunque sia. Io non ce li ho neanche, io ho un sacco di applicazioni. Ma ci sono troppi che hanno i giochi, troppi che giocano là in aula. Io non guardo. No, come non guarda, perché che fa al così? Mio posto. E che fa così, cioè allora, sta così quello, fermo immobile. Allora il collega accanto a me lo vedo che lavora sulla corrispondenza che riceve, sì, e come dire, guarda le agenzie. Sì. L'altro collega accanto a me lo usa poco, e quello che quando lo usa per informarsi. Per la sua esperienza, dunque, nessuno gioca. Io uso computer e iPad a seconda di quello che devo fare, perché se ho il computer è più facile. Per esempio, la nostra rassegna stampa è difficilmente navigabile su iPad. Sì, è vero. Sì, questo. Questo è un dettaglio che credo che non interessi all'ascoltatore. Per dire che cosa ci faccio io. Sì, no, allora, ma lei ci lavora, che lei ci lavora. Siccome biasimo chi nella pubblica amministrazione smanetta mentre al lavoro, anche i parlamentari che smanettano vanno biasimati. Ma per la carità del Signore. Allora, traffico, poi Giulio Innocenzi si prepari una domanda delle sue per il signor Stracquadagno. Anzi, di più posso dirle? Cosa? Di più vanno biasimati. Quelli della pubblica amministrazione vanno cacciati? I parlamentari vanno cacciati. No, vanno, è giusto. Messi all'indice in che modo? Come è puniti, stato fatto? No, come è stato multati? Non sono stati togliere la giornata sono di sono stati sputtanati. E questo secondo me è già sufficiente. È un dipendente pubblico, pubblico che usa internet in modo sbagliato? Si può anche in modo sbagliato. Allora, modo sbagliato, cioè per postare cose, i video di Straquadagno, i video di Brunetta, che facciamo? La stessa cosa che facciamo un dipendente pubblico che svolgesse la sua corrispondenza manuale mentre deve fare delle pratiche. E cioè che facciamo? Pure un licenziamento. Si fa la multa. Una lettera di richiamo. C'è il richiamo. C'è la multa. Ci sono una progressione di sanzioni nel lavoro. Allora, pubblicità, torniamo subito. Il dipendente pubblico ha una garanzia molto maggiore di quella che ha il dipendente privato. E dobbiamo renderci conto che c'è un mercato del lavoro totalmente iniquo in Italia. Traffico. Giulia, fa presentaci un po' un testimonial, non lo so. Domanda di Giulia Innocenzi. A Straquadane su questa storia della... Facciamo come se fosse un po' un precario danno zero l'onorevole, no? Quindi l'ho intervisto un po' io. Vabbè. La domanda che volevo fare a Straquadagno... Prima Straquadagno, non Straguadagno. Straguadagno è la, come dire, la volgarizzazione. No, per è l'errore, no, capita spesso. È un errore perché sembra più facile da pronunciare. Allora, il nome è raro. Sono già siciliano. Partita malissimo. No, onorevole, no, no. Vabbè. Siamo innanzitutto per spiegarci qua, no? Quindi, che c'è, certo, da fare? Prima di venire qua io ho ricevuto un'email, sì, da Barack Obama, che si firmava proprio Barack. Sì. E mi chiedeva $5 per essere uno dei 4 fortunati che avrebbero poi partecipato alla cena di finanziamento della sua prossima campagna elettorale, perché lui ha detto: noi non ci rivolgiamo alle lobby, noi siamo lontani da quelli che stanno attorno al Congresso americano, invece ci rivolgiamo proprio a voi, sì, a voi cittadini, che sono poi quelli che hanno fatto la vittoria di Obama. Allora, ottima idea. Benissimo, quindi si chiama fundraising, si fa, sì, con l'email. Fund, non found, fundraising. Ecco, sì, giusto perché specifichiamo. Ma scusi, ma lei dice appunto che quelli che stanno su internet perdono tutte le ore del giorno. No. Ma lei pensa di Zuckerberg? Lei cosa pensa di questi ragazzi che alla mia età creano miliardi di dollari? Un quotidiano online, vuole che non creando sappia. Cose su internet che rivoluzionano il mondo. Ma perché lei fa domande presumendo quello che non ho detto? Ho non presunto, sa ho cosa chiesto, ho detto. Ho chiesto la sua opinione su Zuckerberg. Ma la mia opinione è eccellente. Come lotta, Straqua. Infatti, dai precari italiani che stanno su internet non viene, solo, vengono fuori solo zucche vuote, non Zuckerberg. Cioè, non ce n'è uno che sia innovativo, che sia capace di far cose. Lo dico perché è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto un bando Italia dell'innovazione per portarli a Shanghai e sono venuti fuori tutti quelli che sulla rete non esistono e non si fanno vedere perché fanno il loro lavoro. Ma scusi, cosa vuol dire farsi vedere sulla rete? Cioè, allora, sulla rete uno posso sta dirle, su Facebook, le email. Cioè gli italiani non fanno innovazione sulla rete, questo vuole dire lei? Esattamente. Forse è un problema del consumano governo che non investe. I social network ripostandosi tutti le stesse cose in un chiacchiericcio inutile che fa rumore di fondo e ottunde i cervelli. Però, perché se noi leggiamo le fesserie che sono circolate sui referendum sulla rete guardi, tutto ci saranno anche cose ragionevoli, non ci saranno solo fesserie sulla rete. Tutto è nato da questo mito che si sta spargendo che la rete è il nuovo vincitore delle battaglie politiche. No, questo oggettivamente mi è una fesseria in Italia per 3 motivi. Il primo, la banda larga, che è quella che serve per far circolare tutti i materiali video e audio, c'è in Italia, è diffusa al 40% della popolazione. Okay? Poi, di questo, seconda cosa, c'è un digital divide che le persone sopra i 65 usano in larga, poca misura, e l'Italia è un paese mediamente vecchio. Secondo lei, per questi motivi, dico che per questi motivi non è il web che ha fatto vincere i referendum. Non è il web che sposta le opinioni pubbliche. Un blog di destra, di area di destra, in realtà adesso lo dico di destra per semplificare. Di destra, quello che vuole. Di area certamente non ostile al governo, molto bello, lo cito sempre, sì, l'autore è un mio amico. Bravissimo. Molto bravo, okay. Si chiama Diego Destro, sì. Il sito è davblog.com. Sulla sua uscita, perché perdiamo su internet, la sinistra ha un esercito che alle 2 va a casa e non fa un cazzo mentre noi lavoriamo, questa è la sintesi che ha fatto, che mi sembra corretta, sì. Allora, dice noi aprire bocca e dire sociale. Cretinate, sì. Aprire bocca e dire cretinate, ecco perché con questi non vinceremo mai. Il problema della supremazia della sinistra è arrivato Moretti su internet, ci pensa l'onorevole Straquadagno, beh è così perché noi lavoriamo e quelli di sinistra non fanno un cazzo. Questa è quello allora, che scrive Destro. Dire, come risponde? Posso politicamente più corretto? Sì. Così magari Destro capisce anche il senso di questa provocazione. Siccome veniamo accusati di essere minoritari sulla rete in termini di volume di fuoco, io ho voluto precisare in un convegno dedicato all'informazione due punti. Il primo, la rete non fa di per sé testo. Io in questa campagna referendaria ho incontrato un sacco di giovani che dicono cose non vere e quando gli si chiede la fonte, mi fermi alla cena dei Cruciani, cosa rispondono? L'ho letto sulla rete. Ma questa è un'analisi successiva, questa è un'altra analisi. Lei però ha detto secondo che c'è un esercito della sinistra che è fatto di dipendenti pubblici che quando sono in ufficio, come lei dice, un po' smanettano e quando, quando vanno ma a casa lei, alle è una stronzata, siccome non fanno cazzo è una stronzata, tutto questo perché... è un'analisi grossolana che va bene in un comizio ma è un'analisi grossolana, cerca di dire in modo chiaro, è legittimo fare nei comizi politica, dire delle cose grossolane che la prevalenza di alcune tesi in termini di volume di fuoco che fanno diventare vere anche le cose non vere. Ma è la stessa storia dell'egemonia culturale che avete raccontato dal 94 a oggi, un signor. Ma che è vera? Però, scusi, come dal si fa a dire, come si fa a dire che la Prodi e Berlusconi come si fa a dire che la sinistra ha un esercito di persone che in gran parte dipendenti pubblici che fino alle due smanettano sociale. Su internet e dopo alle due, no, siccome non fanno un cazzo. Io non ho detto no, lei ha detto fino alle due un po' smanettano e comunque sappiamo non, che no, no, vabbè, supponiamo. Io faccio risentire, così. Infatti oggi il casino dove è nato? È nato prima delle due. Cioè? Su questo video e dunque, è nato prima delle due. Dunque è vero che fino alle due stanno lì a smanettare i dipendenti pubblici. I dipendenti pubblici fino alle due smanettano. E cosa bisognerebbe fare con questi che smanettano? Agire. Ma poi chi ne sa che sono dipendenti pubblici? Vabbè, ma che l'hanno postato? Ma è veramente una follia. Magari non sappiamo nemmeno che sono dipendenti magari pubblici. Magari è stato un suo amico a postarlo. E gli ha fatto anche un favore, si 50.000 contatti. Blocchi sociali, ha presente il blocco sociale? Cos'è? Sì, gli imprenditori, so sì. Gli imprenditori sono un blocco sociale di riferimento. Un bel blocco sociale di riferimento. Sì. Secondo lei, anche quelli quanto tempo passano a postare cose politiche su Facebook? Solo quelli di sinistra dipendenti pubblici postano. Se uno ha molto tempo di secondo me avete perso il contatto con il paese. È molto forte. Secondo me avete perso il contatto col paese. No, no, va bene, avanti no, così, va bene, va bene. Non abbiamo perso il contatto col paese. No. Guardi, noi perdiamo il contatto col paese quando ci facciamo suggestionare da queste tesi. Allora, Barack Obama, che chiede i quanti erano i dollari? Cinque. Fa una campagna di raccolta fondi attraverso la mail invece che farla attraverso le lettere. Ok? Perché lì la mail è lo strumento universale che ha sostituito qualunque forma di corrispondenza. Sostituito. La cosa focale in realtà a chi si rivolge a Barack Obama, cioè non ai poteri forti ma ai cittadini singoli, questo è il punto. Comunque, questo è il punto successivo, perché i singoli cittadini si possono rivolgere a tutti. La tesi di Stracquadano è diversa. Lui dice c'è un blocco sociale, che è quello dei dipendenti pubblici, che vota a sinistra, fino alle due un po' smanettano su internet e come lei ha detto prima, sostanzialmente lavorano poco e smanettano su e internet. Ci sono anche molti studenti, ci sono molta gente, come dire. E dopo le due, siccome non fanno, hanno tempo libero, perché lavorano poco, secondo la sua tesi, o comunque lavorano fino a una certa ora. Amplificano e divulgano messaggi. Benissimo. Sbagliando e incollando. Borsa, in torniamo giro. Subito. Eccoci, 2035 800 24 0024, con noi Giorgio Stracquadani, uno degli uomini del giorno. Lui dice che l'ha fatto apposta a dire questa frase, perché altrimenti non se lo fila nessuno. Cioè, se alcune cose... convegno non se lo filava nessuno. Beh, anche l'hanno invitata. L'hanno invitata. Convegno sì, anche maleducato. Il convegno. Si avvicina al microfono. Il convegno rischiava di essere un po' soporifero perché chi l'ha organizzato sto convegno? Lettera 22, un'associazione di giornalisti. Quindi, ci stavamo pensando. Convegno noiosissimo un po' a sinistra, no, questa associazione di giornalisti. Ah no, vedete quell'altro lettera come si 22. Ah, sì, sì. Quella è lettera 43, lettera... troppe lettere, c'è l'articolo 21, questi numeri bisogna stare attenti. Allora, avevamo ieri due notizie devastanti su cui fare un inferno noi di centrodestra. La sospensione di Sallusti. Perché aveva fatto scrivere notizia Farina. Notizia clamorosa, ne parlano tutti Farina. Di questo, effettivamente. Sono stato prima anche a un mercato qui a Roma, tutti si interrogavano, scusi, Sallusti a lei sospeso sembra, dall'ordine. A lei sembra ragionevole, Parenzo, che ci sia una persona io in Italia che non ha diritto alla sono giornalista professionista, ma sono contro l'ordine, quindi ho anch'io firmato il referendum. Dopodiché che sia la notizia su cui scatenare l'inferno, certo, la sospensione di Sallusti, perché fa scrivere il signor Betulla, beh, vabbè, per carità, a me perché lui non ha diritto costituzionale. Per me, Farina può scrivere, certo. Se fosse una, ma non mi pare un grande tema, secondo tema qual è? Certo che è un tema, la libertà è un tema. Comunque vorrei che rispondesse in maniera chiara al signor destro di DAV, aprire bocca e dire cretinate. Questo dice di lei. Ascoltare tutto prima di fare giudizi, perché questo è un modo, cioè vuol dire stare sotto l'egemonia culturale di Repubblica. E allora Repubblica prende la frasetta, la spara sul suo sito e non mette tutta la parte dedicata a chi fa l'agenda setting, e ancora una volta fa l'agenda setting. No, ma ho capito, e DAV casca lei ha detto... nell'agenda setting di Repubblica. Quindi si stiamo dietro. Guarda, quella frase lei l'ha detta, però lasciamo perdere il contesto. La frase dico un'altra che ho detto. Che ha detto? Sentiamo. Ho detto perché capita spesso che voi amici giornalisti di giornali di centrodestra, e che so che siete di centrodestra, mi chiamate per commentare una qualche notizia. La mia risposta al telefono è: chi ha detto questa fesseria? Dice: c'è su Repubblica.it. Dico: e tu devi guardare Repubblica.it o puoi anche creare tu una notizia a partire da un tema che ci interessa? No. E questo vuole dire, perché Repubblica.it detta l'agenda a tutti, giornali di centro, di destra, di sinistra e anche di DAV, il quale si è fatto dettare l'agenda da Repubblica.it. La comunicazione è strategica, usare internet è solo un media. Allora, se uno sa smanettare, non ne sa nulla di comunicazione. Se uno capisce che cos'è, chi fissa le priorità, chi dà l'agenda, che cosa succede, vabbè, questo mondo qua non riesce a sfondare. Signor Dava ha un sacco di contatti, Dava. Il signor Dava ha un sacco di contatti, però perché non influenza l'agenda politica? No, ma non riesce a influenzarla. Ma è difficile influenzare l'agenda politica su internet, ancora in Italia non ci sono molti. Repubblica.it lo fa. Vabbè. E allora dovremmo porci il tema di come si fa l'agenda setting, non di come si... Ma per esempio, sempre questo sito DAV ha preso un'iniziativa che è quella della rottamazione di alcuni esponenti del centrodestra. Vedo che mi ci mettere anche a me. No, non so, per adesso vince Cosentino, noi rottamiamo Nicola Cosentino. Battaglia giusta, mi pare, no? Boh, non lo so. Non lo so. Antonio da Treviso. Questa la battaglia. Qualche ascoltatore. Il centrodestra c'ha problemi di Cosentino. Beh, è presentabile o no? C'ha molti più problemi che Cosentino. Antonio, dica. Sì, pronto. Buonasera a tutti. Dica. Niente, io volevo parlare e dare la mia opinione su quello che aveva detto il ministro Brunetta. Io sono completamente d'accordo con quello che ha detto. Ci sono moltissime persone che ci chiamano che sono d'accordo, semplicemente secondo me perché hanno, guardi, io la retorica dei precari non la sopporto, la retorica sui precari è una delle cose più fastidiose che esista. Io non sto parlando dei precari, sto parlando, mi perdoni, io sto parlando non di precari, sto parlando di quello che ha detto e che voi avete mandato in onda in relazione a 8:30, dove il ministro Brunetta diceva così nei confronti di una mamma che gli chiedeva un lavoro per suo figlio, e lui gli ha detto: domani mattina alle 5 vai ai magazzini generali a lavorare. Secondo me ha fatto bene a dire così. Voleva dire, con questo esempio, non è che voleva dire che quelli che non hanno lavoro devono andare a scaricare le casse ai mercati generali. Voleva dire che ci sono una marea di lavori che gli italiani non vogliono fare, che i ragazzi italiani non vogliono fare. Ma lo vogliamo dire che ci sono troppe iscrizioni ancora alle facoltà umanistiche? Forse per me bisognerebbe chiudere quasi tutte le facoltà umanistiche o mettere un numero limitatissimo alle facoltà umanistiche. Lei parte direttamente dall'università. Io invece parto un pochettino più dietro, perché io sono uno che lavora, come ha detto tante altre persone, 12-14 ore al giorno, e quindi ho studiato anche io, però tutte le estati, quando studiavo alle superiori, andavo a lavorare, mi facevo i 2-3 mesi di lavoro, perché ero animato da una cosa che i ragazzi giovani non hanno, che è l'ambizione, non ce n'è. Dunque lei dà ragione a Brunetta. Parole sacrosante. Do ragione a Brunetta, perché manca una cosa nella nostra società e bisogna avere il coraggio di cosa? Dirlo. E che cosa? Lo diceva anche Padova Schioppa quando parlava parlava dei figli che erano dei bamboccioni. E si ripete di nuovo lo stesso discorso. Ho capito, Antonio, però voglio sentire da Giulio Innocenzi cosa ne pensa dell'uscita di Brunetta, che riguarda, però adesso distinguiamo due cose: c'è stato o no, ma mi sembra evidente che c'è stato un piccolo assalto mediatico, per carità, poi non è l'assalto d'arma bianca con le pistole, i fucili e i coltelli, però era tutto un po' organizzato, e mi è stato detto che a un certo punto, quando c'era questa scena, si diceva lì vicino a Brunetta, da parte di questi ragazzi che erano lì, c'è il video, è pronto il video, cioè, queste cose un po' si organizzano, no? Non è una tragedia, per carità, può capitare. E il problema è se poi rimane la testimonianza, no? Perché evidentemente Straguadagno e Brunetta vorrebbero che tutto rimanesse chiuso in queste stanze. Brunetta alza i tacchi e se ne va, e così non risponde a delle persone che hanno dei problemi. Io l'ho fatto perché uscisse da quella stanza. Vabbè, comunque è uscita anche molto male. Ma perché lei dice... Però scusi, mi faccia finire giudizio di rispondere. Sì, ma su perché Brunetta lei dice delle cose che sono il contrario del vero? Allora, io ritengo che lei e Brunetta, che siete i personaggi del giorno, dimostrate come il governo sia totalmente lontano dalla realtà, e quello che vi anima, come ha detto Giglioli sul suo blog, è la paura e quindi la rabbia che adesso vi muove, perché avete capito che non avete più il paese che vi segue, e quindi lei esce con questa cosa che internet, che ha anche deciso il referendum, è guidato da quelli di sinistra. Brunetta, che appena sente la parola precario scappa. Ma vi rendete conto? Ma questo è un ministro. Un ministro che con la sua auto blu stava per mettere sotto un altro precario. No, no, questo no. No, io l'ho visto il video. Io l'ho visto. Adesso lei può dare tutti i cicci che vuole su Brunetta, per carità, però che voleva mettere. È quello che si voleva far mettere sotto da Brunetta. Si è messo davanti alla macchina perché pretendeva delle risposte da un ministro. Un politico deve sempre rispondere alle istanze dei cittadini. E invece la macchina continua ad andare avanti. La scena di Tienanmen si è svolta ieri. Vabbè, non è proprio. Secondo voi, se Brunetta avesse risposto a quei precari, ne staremmo parlando adesso? Io ma dico non c'è la risposta possibile, ma però, caro Giulia. Ma se ha solo detto precaria e lui è. Sì, nella ricostruzione di Brunetta c'è una falla. Molto grave. No, c'è una falla e c'è un errore nella ricostruzione, perché Brunetta dice: e mi hanno insultato, e poi io ho detto: siete la parte peggiore del paese. In realtà non è successo questo. Quella persona è andata lì, voleva fare una domanda. Brunetta, appena ha sentito sono della rete dei precari, se n'è andato. Secondo me, legittimamente. Un ministro poi ne risponde politicamente, ma può fare quello che. No, la domanda questa non è questa. Questa è la politica unidirezionale che non accetta lo scambio. Stessa cosa per fosse stato lei, sarebbe rimasto lì a aspettare la domanda o no? A battagliare. Sarebbe andato via o no? Così come ha fatto Brunetta. Non lo so perché non c'ero. Magari io. Come ha fatto lei, sarebbe confrontato. Brunetta un po' sbagliato da questo punto. Ma no, se parliamo di tecnica, di altre cose, è un altro discorso. Il problema è che quello era un luogo diverso. Non era un luogo per la protesta. Ma che c'entra? Ma c'è il diritto al fischio, Straguadagno, sì, come all'opera. Come all'opera, in piccionaia, alla Scala, quando il cantante tira una stecca, si fischia. Dovete abituarvi al fischio. Ma uno può anche andare via, però. Uno può anche andare via. Ma il fischio non l'ha mai ucciso nessuno. Poi però ne risponde, perché il politico deve risponderne. In questo paese non c'è responsabilità da parte dei politici. Non ci sono le elezioni. Beh, ci sono... Un momento. Non bastano? Ci sono le elezioni ma c'è il dovere a Milano, la di rendere c'è il dovere Senta, di rendere il... conto alla pubblica opinione, ma che c'è l'opinione delle elezioni, e poi si volta sono i giornali, sono i media, è rispondere alle domande, è rispondere alle domande. Ma guardi, Brunetta oggi è andato ovunque, domani mattina sarà ospite, credo, da Giannino, da noi alla Radio 24. È stato prima ospite di Barisoni. Certo, il diritto al fischio, ho capito, chi ha negato il diritto, ma il diritto a rispondere al fischio come mi pare, anche perché il precario, anche con la pernacchia ce l'ho. Quella del precariato organizzato è l'Italia peggiore, come dice Brunetta? Quando è falso, soprattutto sì, perché la signora sa che è un contratto a tempo indeterminato. Quale? Quella che è andata sul palco ha un contratto a tempo indeterminato. Sì, se lo dire, vabbè, uno può essere anche portavoce dei precari, pure essendo con un contratto non a tempo indeterminato. Non dice solo una precaria. No, ma sono non l'ha della fatta rete... parlare. La domanda non l'ha fatta, però, non è riuscito a farla. Comunque, Bersani dice che è un estremista, Brunetta. Tutti dicono un estremista, un energumeno, uno che. Energumeno. No, vabbè. Cioè, la frase siete l'Italia peggiore andando via è una frase da. È come se io dicessi a Parenzo che è un pericolo per la democrazia. Ecco. E poi sembra un pericolo. No, uno che si perde sulla metropolitana. Non scherziamo. Va bene, traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Però io non ci credo che in quel libro non c'è. Fottere! Qual è la cosa sessuale che c'è? Meglio fottere che farsi comandare da questi. Musica di Anno Zero. Alla Grillo quasi. Beh, no, non è assolutamente Grillo. Non dimmi che ti sta simpatico Grillo, io non posso. Nel dire... mio libro c'è una critica pesantissima ai partiti, ma in realtà è un risvolto positivo, nel posso, senso Giulia, che la critica viene titolo, fatta per poi migliorare. Sa dove è l'errore del suo titolo? Mi quale? Dica. Che farsi comandare da questi? Che farsi comandare? Meglio fottere che farsi comandare. No, basta. No, perché proprio questi, se comandano altri, questi, cioè la classe dirigente attuale, è meglio occuparsi di tutt'altro. Farsi comandare da altri è diciamo meglio. Che è meglio fottere punto, amo, no? Io non amo... Come insegno dalle vostre parti, io diciamo. Non amo meglio comandare e neanche tanto obbedire. Traffico. Eccoci, 800 24 00 24. Beh, caro Parenzo, uno dei temi del giorno che monterà sicuramente domani, dopodomani, sono queste foto. Sono queste foto che usciranno sull'Espresso. Sono già uscite. Nuove foto di Berlusconi fotografato nel fine settimana dei referendum a Villa Certosa in braccio a due ragazze. Prima pagina dell'Espresso, credo, sì. Copertina dell'Espresso. Già sul sito dell'Espresso ci sono già tutte. Il nuovo bunga bunga di Berlusconi, così è il titolo. Foto di Zappato. Come le ha prese queste foto, Zappadu? Lo sapremo. Dove tu vai domani mattina? Domani mi reco ad Olbia, in missione. Grande reportage inchiesta, che poi andrà in onda sulla 7, ma che grande collegamento poi per la Zanzara domani. Sì. Da Olbia. Come le ha avute? Eccole qua, intanto sul sito dell'Espresso si vedono le foto. Qua. Parenzo, per i radioascoltatori non è bello. Eccole qua, le potete, perché loro possono anche immaginare. C'è la radio, è un media, caro. Sono in simbiosi con Parenzo. Non le sto vedendo, mi faccio la cronaca delle foto. Allora, la foto rappresenta questo. C'è una terrazza di questa bellissima villa Arcoria, di questa bellissima villa ad Olbia, Villa Certosa, dove c'è un Berlusconi con questo solito maglioncino blu, un po' in Marchionne style. Due belle pupattole, sorridenti, entrambe more, una con degli occhiali fashion da sole, e lui sorridente che come un grande capitano di Ventura scruta l'orizzonte con le due con le due puelle. Ecco. Ah, terribile. No, non so se è terribile. Come però si chiama? Questa Bunga è e Bunga? Eh? Le due? Senta, ma che però storia. C'è tutto qui. La grande copertina. Lei deve rispondere and so what? Come dicono. Però scusi, no? Sarebbe. Ma che ce ne alcuni, cala? Alcuni dicono. Che ce ne cala? Alcuni. Le ha lette queste intercettazioni di Sant'Anche Briatore? Secondo me è uno scandalo che siamo stati. Questa pubblicate. È una foto. Però le ha lette poi, no? Sì. Oppure si è rifiutato sì, di leggere? No, le ho lette, le ho viste i titoli, le ho scorse. Ma voglio dire, è una vergogna che ci siano state pubblicate queste cose. E poi, tra l'altro, non testimonia di nulla. Ma lei le avrebbe tenute nel cassetto? C'è un giornalista che viene a conoscere di una notizia, lo deve tenere nel cassetto. No. Bel metodo. Che siano state messe a disposizione chi potesse pubblicarla. Vabbè, io dico semplicemente, un giornalista. Che siano state passate. No, e chi le passa? Questo sarà il problema è chi oggetto passa. Di un'inchiesta, a me non interessa. No, non sarà oggetto di un'inchiesta. Non mi riguarda. Dovrebbe esserlo, ma non lo sa. Lei che è giornalista, avesse ricevuto questa intercettazione, l'avrebbe pubblicato o l'avrebbe tenuta nel cassetto dicendo c'è un'intercettazione qui, però non la pubblico. Chiaro che siano state pubblicate è un orrore che accade solo in Italia, diciamo. Beh, la verità, un ci vorrebbero sanzioni pesantissime cassetto? Ci vorrebbero, io non dico quello che è stato, è chiaro che chiunque in Gran Bretagna Murdoch ha fatto intercettare da Kate Middleton e vari, questo è molto peggio. Che un editore televisivo faccia intercettare, quindi non solo in Italia, in altri paesi è ancora peggio. Diciamo sì, caso, ma non è lo Stato, non si chiama Stato, si chiama Murdoch, è una cosa diversa. E qui è lo Stato che fa queste cose, che dovrebbe garantire tutti. Quindi ma è molto questo grave. Lo dice lei, che lo deve che poi intercetta è lo Stato. Beh, intanto è andata un po' diversamente, perché quelle intercettazioni appartenevano a un'inchiesta fatta dalla procura su Briatore. La cosa hanno stralciato, quelle intercettazioni. Io sul sito del Fatto, che è stato uno dei primi giornali a pubblicare queste intercettazioni, ho letto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. Oggi in treno, venendo a Roma. Cioè, in questa ricostruzione, credo che sia stata pubblicata anche poi sul cartaceo, c'è scritto che per conoscere quello che hanno in testa davvero, per sapere quello che hanno in testa e quello che pensano di Berlusconi, Briatore e la Sant'Anche, cioè due persone vicine a Berlusconi, finalmente abbiamo letto queste intercettazioni. Cioè, l'obiettivo è quello di... È giusto che gli italiani sappiano cosa hanno in le mente davvero e quello che pensano per davvero la Sant'Anche di Berlusconi. Ora, francamente, che sia una meraviglia il fatto che siano uscite queste intercettazioni, io non ci... Poi lasciamo perdere la rilevanza penale, se faranno parte di un'altra inchiesta, se comunque, la cosa è stata stralciata, eccetera. È le vite degli altri. Se l'idea è quella che dobbiamo conoscere quello che la Sant'Anche nel privato pensa di Berlusconi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma soprattutto chi se ne frega. No, però questo è... perché se è rilevante da pubblicare, questo è il motivo della pubblicazione. Non è vero che chi se ne frega, ve ne fregate molto. Perché questo è, io leggo dei passaggi che mi hanno fatto accapponare la pelle su questa roba qua. Cioè, Daniele e Flavio bocciano Scajola e La Russa, perché da poi ognuno fa il suo mestiere, eccetera. Ma la motivazione per cui vengono poi pubblicate le telefonate è che dobbiamo sapere, che è giusto che si sappia, quello che la Sant'Anche pensa di Berlusconi nel privato con Briatore. Cioè, questa è no, la cosa. Questa è la versione del Fatto. Se raccontassero in pubblico quello che pensano e dicono in privato, la politica italiana ci apparirebbe diversa. Se raccontassero in pubblico quello che pensano e dicono in privato, la politica italiana ci apparirebbe diversa. Cioè, non c'è lo scandalo perché viene pubblicata questa roba. ma non ci potrebbe essere naturalmente perché le pubblica il fatto, ma c'è il fatto che si deve conoscere quello che in privato pensa la Sant'Anchè di Berlusconi. Adesso, diciamo che c'è, applicarlo a tutti questo criterio, diciamo allora. Che c'è una doppia morale spesso possiamo nei nostri politici, perché un conto è quello che dicono in televisione, un conto quello, cioè, che non fanno, l'avremmo mai saputo, aggiungono ancora, non l'avremmo mai perché saputo se la procura di Genova con il nucleo operativo della Guardia di Finanza non avesse intercettato Briatore. Lei dice sempre quello che pensa, beh, in sa, tutti i contesti. Sa, amico, io non vengo votato dagli elettori, ma sa, amico mio, se solo un deputato dell'UDC e chiedo i voti per difendere perché la famiglia, mi picchia sul tavolo, e poi che mi fa, trovano un fastidio tremendo e quando poi si mi trovano in un festino a Via Veneto, non picchi, in un festino a base di cocaina e prostitute, qualche problema c'è se voglio tutelare i valori cattolici, e quindi è giusto che si sappia questo, che non io... ha niente a che fare con le intercettazioni, no, ma voglio sentire Davide, voglio sentire Davide da Firenze. Davide da Firenze è quello che si Davide ostenta. Davide, dica, non è la regola. Non c'è più Davide? Ci ha messo in attesa. Matteo da Monza. Pronto? Chi è, Davide o Matteo? Matteo da Monza. Dica. Volevo solo dire una cosa, nel senso che rimango allibito che alcuni politici non stanno capendo che tutto quello che sta succedendo è perché stanno sbagliando le tecniche di comunicazione. Quando è stato eletto Berlusconi negli primi anni 90, usava come metodo di comunicazione la televisione. Adesso i metodi di comunicazione sono cambiati, quindi non si può dire che la rete manganella o io non credo che la rete possa cambiare le opinioni, perché in realtà non è che la rete la fanno i politici, La rete viene da sola, quindi è incredibile. Questa è un'illusione. Che si stanno autosuicidando e continuano a suicidarsi continuando in questa direzione. Ma no, guardi che in realtà poi Straguadà ha detto un'altra cosa, ha detto che effettivamente poi la rete in qualche modo pesa, ma viene utilizzata soprattutto, viene utilizzata in un certo modo e secondo lui da certe persone. Un ascoltatore le voleva dire che lei ha detto che tutti quelli i dipendenti pubblici sono tutti di sinistra, in gran parte c'è il blocco sociale della sinistra che sono prevalente, lo sappiamo, quando si parla di blocco sociale. Sì, ma però non sono loro che stanno lì a postare le cose. Come fa lei a essere così sicuro che sono quelli proprio che postano, loro, i dipendenti pubblici che postano le cose? Come fa a dirlo? Ho detto una cosa diversa. Per esempio, nel mondo degli insegnanti, cosa sono quegli insegnanti? Che sono? Sono dipendenti pubblici, giusto? E allora che fanno? La maggior parte di loro che ora finisce intorno alle 2 e allora? Poi va a casa, giusto? E sono quelli che la prevalenza degli elettori e dei militanti di centrosinistra nei dipendenti. Ma quello può darsi che sia così, ma sono loro che smanettano. E quant'è la quantità di gente che fa questo mestiere, che è presente sulla rete e alimenta? Non so, ha dei dati, lei ha dei dati su questo? Sì. Sono tutti, tutti dipendenti pubblici. No, e vede che lei fa il furbetto, tutti. No, non ho detto tutti. Sono i dati? No, in gran parte dipendenti pubblici, insegnanti, allora, di sinistra. Lei ha un'idea di quando si fa la prospezione di quali sono? Secondo me gli insegnanti, su internet non stanno di guardare cosa dice Straguadagno. Cioè adesso, con tutto il rispetto, però devo chiudere, se ogni uccidono. Grazie a Giulio Innocenzi, grazie. Alimentano le loro informazioni. Grazie a Giulio Innocenzi, grazie a Giorgio Straguadagno. Davide, ci sentiamo domani 18:30. Buon viaggio in Sardegna. A domani. Grazie. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.